Va bene, allora facciamo la nostra invocazione alle antenate. E ci sta comunque tutto quello che ci siamo dette. Non è niente mai buttato. Ok. Amate maestre, nostre antenate, venerabili figlie della grande madre, che avete posto il vostro seme nel sacro ventre, tornate a guidare i nostri passi e a ispirare i nostri pensieri. Noi, la vostra progenie, vi invochiamo. Tornate a farci sentire chiara la vostra voce. Tornate e camminate con noi nella lunga e larga marcia planetaria verso il risveglio globale della nostra coscienza che giace nelle memorie cellulari addormentate. Miriam, risveglia in noi la conoscenza. Brigid, risveglia in noi la chiarezza. Hildegard, risveglia in noi la visione. Gabriela, risveglia in noi la determinazione. Sabina, risveglia in noi la fierezza. Marie, risveglia in noi la tenacia. Maria, Giputas, risveglia in noi l'intuizione. Mary, Wollstonecraft, risveglia in noi la forza. Christine, de Pizan, risveglia in noi il valore. Guglielma, la boema, risveglia in noi la grandezza. George Sand, risveglia in noi la libertà. Virginia, risveglia in noi la lucidità. Charlotte, risveglia in noi il servizio. Anna, risveglia in noi l'integrità. Jane, risveglia in noi l'indipendenza. Rosa Luxemburg, risveglia in noi il coraggio. Gertrude Bell, risveglia in noi l'audacia. Catherine Mansfield, risveglia in noi la spiritualità. Anita Garibaldi, risveglia in noi la dignità. Jeanne d'Arc, risveglia in noi la coerenza. Margherita Porete, risveglia in noi l'onore. Tornate, venerabili anziane, siate le nostre guide, vegliate sul nostro cammino, rispondete alle nostre preghiere e sedete con noi in cerchio, nell'immenso cerchio delle donne che oltre lo spazio-tempo creano il corpo della Dea. Questa è una preghiera che mancava, perché sì. Qui le donne che stiamo studiando escono dalla lettura intellettuale e culturale e diventano davvero maestre venerabili e alle quali possiamo rivolgerci con un'attitudine di preghiera chiedendo che ci ispirino, perché sono diversamente vive, quindi possiamo davvero chiedere che ci accompagnino nella nostra vita di tutti i giorni, cosa a nessuno era mai venuto in mente, ma io lo trovo un'ispirazione meravigliosa, poter chiedere a Virginia Woolf che mi guidi. Benissimo. Si chiama invocazione? Sì, la trovi sul mio sito. Ok. È bellissimo. Sì. Stefano Vise, ho visto proprio tutte le viste che arrivavano e poi man mano che prima quando le chiamate generalmente, poi quando le dite no, per nome è come se arrivassero comunque un pezzettino, quindi cioè per me è meglio sentire proprio bello. Allora, l'altra volta abbiamo avuto come protagonista Charlotte Bronte. Però la prima volta avevamo parlato di Jane Austen e abbiamo visto che Jane Austen aveva un modo molto domestico di gestire il risveglio, di gestire il messaggio femminino, ossia che ha semplicemente valorizzato ed espresso e comunicato quello che lei conosceva, la vita domestica. E abbiamo visto anche che Virginia Woolf la sostiene molto, la porta in palmo di mano. Quando parleremo di Virginia Woolf la prossima volta lo vedremo, Virginia adora Jane perché sono molto simili nel loro modo di proporsi. Studiando Charlotte e invece la sua predilezione per George Sand, mi sono resa conto che ci sono due modi per la donna di esprimere la sua emancipazione. Una è la via la mia amica Teresita chiamerebbe la quietude, ossia la maniera domestica, quieta, silenziosa, senza momenti di eroismo, che è un po' anche quella che hanno utilizzato le grandi mistiche, come Teresa di Avila, per esempio, Teresa di Lisieux, che hanno fatto un'opera profondamente politica, pur in seno alla Chiesa Cattolica, o i De Garda anche, no? Comunque hanno usato un sistema, un modo domestico, diciamo, di gestire il loro messaggio di indipendenza. L'altro invece è quello più eroico, e lì probabilmente è questione di come uno si sente portato. C'è la Charlotte ha sicuramente scelto la maniera eroica di comportarsi, e lo ha espresso nelle sue opere, ma lo ha espresso con la sua stessa vita. E infatti non poteva che piacerle George Sand, perché George Sand è stata una guerriera, è stata una militante, è stata una socialista, è stata una che è andata in tribunale, è stata la prima donna divorziata della storia, e con lei per esempio tutto il filone Mary Wollstonecraft, Margherita Porete, per risalire, no? Mary Wollstonecraft è la mamma di Mary Shelley, che è andata a farsi la rivoluzione francese, è partita dall'Inghilterra per andare a combattere a Parigi sulle barricate. Margherita Porete, mistica medievale, che piuttosto che rendere conto a un tribunale di uomini che le rendevano conto della sua eresia, ha detto: io mi faccio bruciare, ma io non vi riconosco, non siete nessuno per me. Veramente chapeau, no? Infatti nell'invocazione a Margherita Porete si chiede, mi sembra, la dignità, è stata collegata con la dignità, una cosa così. Cioè, se ci pensate, con quale diritto questi uomini chiedono conto alle donne di quello che fanno? No? Perché le donne devono rendere conto, dove sta scritto, no? Ecco, quindi ho scoperto che ci sono questi due filoni importanti, e tutte le donne che hanno fatto azione, bene o male politica, anche se questa parola non mi piace, perché la radice della parola politica viene da polis, che era ne avevamo già parlato di questo, quindi politica è una parola che non rende per niente bene, ma non ho ancora trovato... Comunque, un neologismo. No, cioè, mi piacerebbe di più usare la parola economica, però anche la parola economica è stata talmente, per cui insomma non mi viene una parola, la troveremo. Tutte le donne che hanno avuto un tipo di impegno, diciamo, per l'emancipazione della femminilità, hanno dovuto comunque confrontarsi con la loro natura e con quello che la natura dettava loro. Quindi ci sono state quelle che hanno scelto la maniera domestica, più British, come Jane e come Virginia, quelle che hanno usato invece la maniera più da guerrigliera, che è molto più francese. Anche spagnola. E spagnola. Ecco. E quindi a questo punto è bello leggere quello che Charlotte pensa di George Sand e di Jane Austen, ed è, io l'ho trovato leggendo la sua biografia scritta da Elizabeth Gaskell, che abbiamo analizzato la volta scorsa. Avevo fatto le fotocopie delle quattro pagine nelle quali Charlotte parla di George Sand, e così creiamo una sorta di collegamento tra tutte le donne che studiamo, e mi piace molto questo modo di metterle in comunicazione, anche se tra di loro sono passati 50, 60, forse anche più anni. Allora, si dice a un certo punto, se mai scriverò un altro, qui lei parla al maschile, perché è una lettera che lui, come Carrer Bell, sappiamo che Charlotte aveva usato lo pseudonimo di Carrer Bell per un certo periodo, quindi in questa parte lei sta scrivendo come Carrer Bell a un altro scrittore che le dava consigli su come migliorare la sua cultura, e ovviamente le consigliava di leggere Jane Austen, perché Jane Austen sostanzialmente non ha mai dato fastidio al patriarcato, non ha mai... Cioè, ha comunque parlato di donne che stavano in casa, che si sposavano, cioè nei libri di Jane Austen comunque alla fine l'eroina si sposa, anche se magari non si sposa per interesse, però si sposa. E quindi qui parla il maschile, però Charlotte che parla, dice: se mai scriverò un altro libro, penso che non indulgerò in quello che lei chiama melodramma. Penso, ma non ne sono sicura. Beh, io lo giro al femminile. Penso anche che mi sforzerò di seguire il consiglio di rifinire di più, tra virgolette, di essere più controllato, tra virgolette, che splende dai miti occhi di Miss Austen. Leggermente ironico. Io adoro Jane Austen, non sto in questo modo screditando, mi piace molto vedere le due maniere che la donna ha per portare avanti il suo discorso. Simone de Beauvoir, per esempio, è stata una lottatrice, tante altre donne invece hanno usato un modo molto più dimesso, molto più silenzioso, ma non per questo meno dirompente. Dice, dov'è? Sono lieta che un altro suo lavoro, non è qui. Ah, perché le piace così tanto Miss Austen? Questo suo punto di vista mi lascia perplessa. Perché dichiara che preferirebbe aver scritto Orgoglio e Pregiudizio piuttosto che un qualunque altro libro? Non avevo letto Orgoglio e Pregiudizio prima di avere letto queste sue parole, mi sono procurata il libro. E cosa vi ho trovato? Questo è interessante, l'accurato ritratto di un viso comune, un giardino chiuso da alte staccionate e accuratamente coltivato, con bordure impeccabili e fiori delicati. Ma nessuno schizzo di una brillante, vivida fisionomia, nessuno scenario di aperta campagna, non aria aperta, non azzurre colline, nessun bel ruscello, perché le cose di Genosti si svolgono tutte dentro le case. Al massimo vanno a fare qualche passeggiata, ma comunque nelle Cotswolds, cioè Charlotte scrive dalla brughiera, dallo Yorkshire, quindi da questo paesaggio così tanto selvaggio, quindi è evidente che non può né capire né apprezzare i miti occhi di Jane Austen. A lei piace George Sand perché George Sand è una guerriera, una passionale. Non mi piacerebbe davvero vivere con le sue signore, con i suoi gentiluomini, nelle loro eleganti ma appartate dimore. Posso capire l'ammirazione per George Sand, dice lei, poiché pur ammirando non senza restrizioni alcuno dei suoi lavori, tuttavia ha un'ampia visione intellettuale che, anche se non posso capire a fondo, sono in grado di rispettare pienamente. Essa è sagace e profonda, George Sand. Miss Austen è solamente accorta e osservatrice. Mi sbaglio o lei si è pronunciato affrettatamente? Avanti, dice. Quel che chiamo un artista, allora può esservi un grande artista senza poesia, quel che chiamo un artista che mi induce a inchinarmi riconoscendo la grande, sto girando al femminile tutti i maschili, non può dunque essere privo della poesia, ma sono certo che per poesia lei intende qualcosa di diverso da quel che intendo io, e come è la poesia che innalza la virile George Sand. E questo è interessante, perché dice la virile George Sand? George Sand ha vestito, dopo lo vedremo, si vestiva da uomo ma non sempre, e comunque non ha mai rinnegato su essere donna, ha partorito i suoi figli, li ha nutriti, li ha educati, ha sempre avuto una marea di amanti maschi. Quindi perché la definisce virile? Perché Charlotte sta parlando dal punto di vista dell'ottica patriarcale, quindi quello che vale è virile, quello che non vale non lo è. Qui si vede molto bene la gabbia del patriarcato. Lei reputa virile una donna passionale, in realtà c'è un tipo di passione che è femminile, solo che nell'epoca in cui è nata Charlotte, in cui le donne valevano meno del due di coppe, non so se il due di coppe, comunque, è chiaro che per lei, cioè, ma mia nonna, senza andare tanto lontano, mia nonna diceva, sempre detto, prossima vita nasco uomo. Per cui no, perché per poter essere liberi, no, bisognava essere uomini. Di fatto George Sand si vestiva da uomo perché, non perché si sentisse mascolina o perché fosse omosessuale o tutte queste altre cose, semplicemente perché era più libera nei movimenti, secondo perché poteva camminare tranquillamente per le strade della città con i suoi amici scrittori e anche di notte senza che nessuno la guardasse o le desse della cortigiana, per mimetizzarsi, semplicemente per questo, ma quando era in casa sua si vestiva da donna, assolutamente, era semplicemente più comodo per lei. Comunque, lei qui dice, innalza la virile George Sand e trasforma un tema rozzo in qualcosa di divino. È il sentimento come lo intendo io, dice Charlotte, un sentimento gelosamente nascosto ma genuino. Miss Austen essendo, come lei dice, priva di sentimento, priva di poesia, forse è dotata di buon senso, aderisce al reale più che al vero, ma non può essere grande. Chiaramente Virginia Woolf, che aderisce al reale, perché Virginia Woolf che cosa ha fatto? Addirittura ha inventato un nuovo stile di scrittura, che è quello di non più seguire... Virginia Woolf diceva: se in un libro c'è una trama, è un libro volgare, è un libro falso. Non so se siete mai riusciti a leggere fino in fondo una roba di Virginia Woolf, vi accorgete che non c'è la storia, è solo la storia è solo un pretesto perché lei segue la concatenazione dei suoi pensieri, e lei dice che quello è lo stile delle donne, quello è lo stile femminile. L'altro, la consecutio temporum, la consecutio spazio temporale, è un'invenzione dell'arte maschile. Perché in realtà dice la vita non è così e il pensiero non è così, quindi è chiaro che Virginia Woolf, così attaccata al reale al punto che descrive i suoi pensieri nell'esatta sequenza in cui le arrivano, è chiaro che lei si trova in sintonia con Jane Austen, così come è chiaro che Charlotte si trova in sintonia con George Sand. Mi affascina vedere come si sono capite e come si sono sostenute queste due qualità, no? Ugualmente femminili, ma che dovevano in qualche modo farsi strada in un mondo dove alle donne non era permesso. Stiamo parlando di tutte quante donne che hanno usato uno pseudonimo maschile, tutte quattro, perché Aurore Dupin si è chiamata George Sand e Charlotte Bronte si è chiamata Carol Bell. Quindi le donne che hanno usato uno pseudonimo maschile sono le lottatrici virili, che in realtà sono sempre state donne, sono state madri. Abbiamo visto l'altra volta che Charlotte è stata madre delle sue sorelle, di suo fratello, di suo padre, quindi ha usato la sua maternità in tutti i modi possibili fin da quando aveva 9 anni, però ha ritenuto che per poter essere incisiva in un mondo come quello nel quale lei viveva bisognasse usare un nome maschile, cosa che Jane Austen non ha fatto, per esempio, e neanche Virginia Woolf, perché loro non hanno mai avuto uno stile che dava fastidio agli uomini. Non, forse per questo hanno avuto tanto successo, perché in realtà non hanno mai messo in discussione, beh, Virginia Woolf sì, però era un altro momento, ma Jane Austen non ha mai messo in discussione il ruolo della donna dentro nella casa. Se l'ho fatto, l'ho fatto in una maniera talmente sottile, talmente raffinata che l'abbiamo capito solo noi, nessun altro. Il patriarcato non si è sentito minacciato, no, infatti. Mentre da Charlotte sì, e come? Perché Charlotte e Anne e George scrivono di donne che si mantengono da sole, non che rinunciano al matrimonio di interesse per fare il matrimonio d'amore, come ha sempre descritto. Cioè, Jane Austen non ha mai descritto nei suoi libri governess, la istitutrice. Ha sempre descritto ragazze che prima o dopo sono arrivate al matrimonio, tutte. Mentre Charlotte e Anne hanno parlato di donne autonome, indipendenti e autosufficienti, così come tutte le donne di George Sand, più o meno. Quindi, dov'è? Scorrerò diligentemente tutti i lavori di Miss Austen, alla fine dice come lei mi consiglia, mi deve scusare se non mi riesce sempre di pensare a modo suo, eccetera, eccetera, va bene. Vediamo l'ultima parte. Dove dice, ecco qua, qui addirittura non le piace Balzac. Charlotte dice, per quanto si possa ammirare Balzac, penso che non mi piaccia, si sente per lui quello che si prova per un antipatico conoscente che mette continuamente in piena luce i nostri difetti, mentre solo raramente presenta in primo piano le nostre qualità. Sinceramente preferisco George Sand, se non si è capito, a Charlotte piaceva George Sand. Fantastica, fanatica, poco pratica, entusiasta, come è frequentemente, quanto lungi dalla verità sono molti dei suoi punti di vista, sicuramente fuorviata dai suoi sentimenti, l'indole di George Sand è migliore di quella di Monsieur de Balzac. La sua mente è più ampia, il suo cuore è più caldo di quello di lui, perché, dice, le lettere del Voyageur, che è una delle opere di George Sand, traboccano dell'ego della scrittrice. E nel leggere questo lavoro non ho mai sentito più chiaramente come la maggior parte dei suoi difetti nascano dall'eccesso delle sue buone qualità. Bellissimo. Quindi anche se è arrogante, anche se è egoica, ma tutto questo viene dall'eccesso delle sue buone qualità. Infatti vedremo che George Sand ha lavorato e mantenuto tutti i parassiti della sua corte, cioè ha mantenuto Chopin, ha mantenuto Debussy, li ha nutriti, ha mantenuto i figli, cioè lei era veramente una madre del clan, George Sand, perché lavorava lei, ha lavorato come una schiava scrivendo più di 100 romanzi, mica peraltro per dar da mangiare a tutta sta pletora di gente che viveva in casa sua. Ecco, dice, credo, aspetta, dov'è? Dall'eccesso delle buone qualità, è questo eccesso che spesso l'ha messa in gravi difficoltà e le ha preparato durature rimpianti, ma credo che la sua mente appartenga a quella categoria alla quale le esperienze disastrose insegnano senza indebolire né provocare eccessivo scoraggiamento, e in questo caso quanto più a lungo vivrà, tanto migliore diventerà. Ecco, questo è il pensiero di Charlotte su George. E io mi sono presa degli appunti che seguo. Dunque, George Sand nasce all'inizio dell'Ottocento e muore a 72 anni. Queste donne di cui parliamo sono tutte donne che hanno superato la settantina, quindi che in qualche modo hanno trovato come sopravvivere alla... Forse il fatto di occuparsi tanto degli altri ha fatto sì che non avessero la possibilità di pensare troppo a se stesse, non lo so, mi viene da dire. George Sand è stata una donna politicamente molto impegnata, ha scritto tanto e ha parlato tanto di politica nei libri, nei romanzi, bellissimo, se io vi consiglio di ascoltarlo perché sul nostro canale YouTube La vita di George Sand, scritta da lei stessa, la sua autobiografia, perché lì veramente lei mette la sua filosofia di vita più che nei romanzi, perché i romanzi spesso li scriveva perché doveva portare a casa soldi, per cui alcuni sono belli, altri sono un po' pesanti. La piccola fadetta che io ho registrato è incantevole, ma perché mette tutta la sua parte sciamanica. Fadette vuol dire fatina in francese, quindi Fadette è questa ragazza che vive con la nonna, guarda caso, c'è sempre il discorso nonna-nipote, che vive con la nonna e impara dalla nonna a usare le erbe, a usare i rimedi, e tutto il villaggio, diversi villaggi vanno a farsi curare da lei, dalla nonna e poi dalla nipote di nascosto, e nessuno lo ammette, le chiamano le streghe, però vanno poi a farsi curare e non lo ammettono mai. E Fadette cura tutti, riesce a curare perfino il fratello del suo innamorato, nonostante questo fratello le avesse messo contro la famiglia, avesse fatto in modo che si lasciasse. Qualcuno di voi l'ha ascoltato? No. Ah, ecco, allora è utile che ve lo riassuma. Per cui secondo me è un'opera profondamente spirituale, ma in senso sciamanico, in senso pagano, non certo in senso cattolico. E c'è un punto dove addirittura lei, Fadette, fa proprio quello che secondo me è proprio un rituale sciamanico, un rituale anche a non di luna, ma viene descritto con dovizia di particolari, invoca gli spiriti, quindi è un trattato di sciamanismo, secondo me, perlomeno il sciamanismo nostro, quello delle donne, le donne di Grobio, le donne che conoscevano le erbe, sapevano far partorire senza dolore, fino a che qualcuno non ha scritto e che invece bisogna partorire con dolore, quindi è stato proprio proibito. Non so se avete visto quella scena terribile della papessa Giovanna. Avete visto il film La papessa? No. Dove c'era... Aspetta, era La papessa? Sì, La papessa, sì, dove c'è la madre della bambina che poi diventa la papessa, che sta per partorire l'ennesimo figlio, e lei è moglie di un uomo di chiesa in Franconia, e viene chiamata la levatrice del villaggio che sta per farle sta macinando la calendula e altre erbe per alleviare i dolori in maniera che possa spingere con più facilità. Entra il marito e le dice: cosa sono questi intrughi pagani, diavolo vada retro, e le butta per terra, le butta nel fuoco, no? E le proibisce di dare alla donna qualunque tipo di rimedio, perché è stato scritto tu partorirai con dolore, quindi impedirle di avere dolore significa andare contro le scritture. Per fortuna. Perché non doveva averlo lui il dolore. Infatti poi comunque la levatrice non riesce ad usare la calendula e tutte le altre erbe perché lui gliele ha buttate nel fuoco, gli dice perlomeno sostienila da dietro, aiutala, aiutami. E lui dice per carità è impura, sta partorendo, non ne voglio sapere. Lei gli dice guarda, io ti avverto che se non mi aiuti questa donna muore e tu ti trovi con 4 figli da allevare da sola. Allora a quel punto, visto che forse serviva ancora qualcosa sta donna, allora l'aiuta. Però ecco, questo è un po' il concetto, no? Siccome c'era scritto tu partorirai con dolore, tutte le erbe che la dea ci ha dato per poter alleviare il dolore sono state condannate da lì in poi. E nella piccola fadette tutta questa parte delle erbe c'è, ma c'è perché George Auror, che era il suo nome anagrafico, le conosceva e le andava a raccogliere, le conosceva molto bene. Lei andava a erborizzare, mi pare che usasse questa parola, non so in francese come sia perché ho letto solo la traduzione italiana, però diceva ma oggi vado a erborizzare, partiva e andava nel bosco e tornava con la gerla piena. È molto bella questa immagine, molto, molto sciamanica. Ecco, in un punto della sua autobiografia scrive siccome stavano cominciando le barricate, stavano cominciando le insurrezioni contro Luigi Napoleone, il nipote di Bonaparte. E quindi i suoi amici socialisti, lei era dichiaratamente socialista, da un certo punto in poi della sua vita divenne dichiaratamente socialista, quando riuscì a divorziare, quindi riuscì a emanciparsi dal marito, divenne socialista e cominciò a frequentare tutti gli scrittori, gli artisti socialisti, ovviamente non socialisti nel senso del partito come possiamo intenderlo noi socialisti, nel senso di una scelta quasi filosofica, quasi spirituale, che lei di fatto viveva e sperimentava nella sua casa, perché la sua casa di Noa diventa quasi una non mi piace usare la parola comune, ma una comunità spirituale, sì, perché lei ha dato alloggio a tantissimi artisti che tutti insieme vivevano, mangiavano, dormivano, creavano, quindi, e lei li manteneva tutti. Quindi è una visione molto neolitica questa, molto di madre del clan. Lei probabilmente non era consapevole, ma è effettivamente così. Lei scrive, quando cercano di chiamarla, dire vieni a fare le barricate con noi, lei si tira fuori e dice no. La dittatura rivoluzionaria legittimata, la dittatura rivoluzionaria la chiama, e qui siamo nel primo trentennio del 1800, legittimata dalle nostre mani col voto, non ci sto. Il socialismo che arriva a cavallo della dittatura, guardate che lucidità incredibile, lei è l'unica che lo dice, ed è l'unica donna, si trasforma in un affare di partito, in effetti si è trasformato in un bagno di sangue, poi tutte e due le rivoluzioni. Abbasso il partito e viva sempre il popolo. Dice lei che il partito e il popolo non hanno niente a che fare, perché il partito è comunque un'oligarchia, è comunque un'aristocrazia travestita. Lo stiamo vedendo adesso, no? Stiamo vedendo che cosa succede ai partiti di sinistra, fanno vomitare più di quelli di destra a momenti, no? Cioè non esiste neanche più distinzione tra l'altro. Ne ho abbastanza di dittatura, dice lei, non ce n'è una buona e una cattiva. La violenza genera sempre il male, non la coscienza del diritto. Questo stesso messaggio, qualche anno dopo, qualche decennio dopo, verrà dato da Rosa Luxemburg, che esce fuori dai movimenti del suo partito socialista, nazionalsocialista, che poi diventa il partito nazista. Lei esce fuori perché si accorge per tempo, no? Che la dittatura, come la chiama qui, rivoluzionaria, che arriva a cavallo, legittimata dal nostro voto, non porta da nessuna parte. Quindi Rosa Luxemburg, stesso discorso, e Virginia Woolf. Se voi leggete Tre Guinee, qualcuno ha letto Tre Guinee di Virginia Woolf, è un trattato contro la guerra, ma contro tutte le guerre. Quindi perché Tre Guinee è stato scritto perché a Virginia Woolf era stato chiesto di scrivere qualcosa contro la guerra. L'Europa si preparava, l'Inghilterra si preparava ad entrare, non mi ricordo se nella prima o nella seconda mondiale, credo. Odea, non mi ricordo, se era la prima o la seconda, sicuramente, perché la prima era 15-18, per cui la Wolf è dopo, posteriore, credo. Comunque anche la Wolf, nello scrivere questo trattato, ha scritto che la guerra non ha vincitori. Quindi alle barricate della rivoluzione di Napoleone III, perché Luigi Napoleone poi diventa Napoleone III, lei risponde andando, lei se ne va da Parigi, Georges, che era lì che scriveva e lavorava, se ne ritorna a Noailles, nel Berry, che è a tre ore, al momento credo sia tre ore di auto, quindi, no, 300 km più o meno da Parigi, mi sembra di aver visto sulla Google Map, più o meno una roba così, dove lei aveva la sua tenuta, e se ne ritorna in campagna e si tira fuori completamente da qualunque baruffa semplicemente perché non ci crede, e ha ragione, perché che cosa è successo poi? È successo che quelli che hanno preso il posto dei dittatori di prima sono diventati ancora più dittatori. L'abbiamo visto, abbiamo visto la dittatura comunista, abbiamo visto Cuba, cioè non è possibile cambiare le cose usando la violenza. Quindi i suoi amici socialisti si sono sentiti traditi, gliene hanno dette di tutti i colori, ma il fatto è che le donne sanno che la violenza non porta da nessuna parte, le donne risvegliate, quindi si tirano fuori, non partecipano. Ecco, la critica patriarcale, quello che a noi è stato tramandato fino ad oggi di Georges Sand, la definisce scandalosa, dissoluta, atea ed eretica. In realtà è una donna libera e professa una spiritualità pagana. Lei ha uno spirito protettore che si chiama Corambè, al quale addirittura, secondo le sue stesse parole, lei fa sacrifici in tempi di crisi. Quando lei ha bisogno di avere un'ispirazione, lei invoca il suo Corambè, qualunque cosa sia, e gli fa addirittura dei sacrifici, fa delle offerte, non è specificato meglio che cosa, però mi sembra abbastanza evidente che è molto pagana e molto sciamanica questa visione, anche se a nessuno mai è venuto in mente di trasmetterla parlando di Georges Sand. Tra l'altro, ieri ho postato una cosa sulla pagina Facebook della Scuola delle Donne e cercando una foto di Georges Sand ho trovato un articolo orribile, l'ho postato, se volete lo trovate poi in Facebook nella pagina della Scuola delle Donne, un articolo scritto da un uomo, ovviamente, di una volgarità, di una miopia, perché l'immagine che dava di Georges Sand era quella di una sorta di donna facile, di facili costumi, che ha avuto un sacco di amanti, che era lesbica, che ha fatto un matrimonio di interesse, cosa non vera, perché lei si è sposata per amicizia, lo ammette, ma non certo per interesse. Lei e lui erano d'accordo nello sposarsi per amicizia, lo sapevano tutti e due quando hanno cominciato, e comunque era il modo che lei aveva per salvare la sua proprietà, perché altrimenti sarebbe andata a sua madre quando è morta la nonna. Quindi lei ha fatto una scelta che riteneva saggia, non è stato un matrimonio di interesse, è ben diverso un matrimonio di interesse, tant'è vero che il marito non l'ha mai mantenuta perché era lei quella ricca. Quindi come può essere un matrimonio di interesse se quella ricca era lei e il marito è sempre stato un parassita che le ha fatto fuori, quasi a momenti le faceva fuori la proprietà se lei non si fosse messa a lottare per i suoi diritti. Ma hanno avuto dei figli però, sì? Sì, due. Inoltre, la descrive questo articolo assolutamente patriarcale in una rivista letteraria online, la descrive in questo modo, cioè così miope davvero, così e oltretutto la descrive come una che ha scritto solo ed esclusivamente per i soldi, cosa assolutamente non vera. È vero che ha scritto, ma ha scritto per mantenere un sacco di gente, un sacco di scrittori e poeti che altrimenti da soli non avrebbero avuto il becco di un quattrino, ma ha scritto anche delle cose valevolissime come la sua autobiografia, come La piccola fadette, come altre cose che sono veramente dei patrimoni, con così tanta ricchezza. Perciò ho avuto davvero la prova di come il patriarcato non abbia capito un accidente di questa donna e di come ancora oggi l'immagine che ci viene trasmessa era di una che si vestiva da uomo perché andava con le donne, di una che, ma che non è assolutamente così. Lei stessa scrive più avanti, poi leggiamo un punto in cui spiega che cos'è l'amore, ed è una cosa di una profondità che mai una donna che fa sesso per fare sesso potrebbe pensare e scrivere una cosa così. È evidente che è stata travisata. Lei quindi vive per un periodo, dopo un po' se ne va da Noailles, è costretta a lasciare la sua proprietà al marito, perché questo la legge prevedeva. Conoscete bene o male la biografia, non occorre che io vi riassuma, avete letto la sua vita, anche perché c'è tanta roba, quindi non faccio, io focalizzo alcuni punti che secondo me sono importanti. A un certo punto lei prendeva a Parigi con la figlia per poter provare a vivere da sola, quindi col marito fa il patto, 3 mesi a Parigi con la figlia e 3 mesi a Noan. E lui le passa 200 franchi, non mi ricordo, insomma, un po' di soldi al mese con i quali lei deve vivere. Tra l'altro lui le passa, ma che sono soldi suoi, perché Noan era roba di sua nonna, quindi in realtà stava facendo cosa? Le stava semplicemente dando una parte di quello che doveva essere suo tutto per diritto. E comincia a scrivere dopo la nascita di Solange, quasi per gioco, all'inizio quasi non ci riesce, poi però vede che le viene facile, tra tutti, lei ovviamente si confronta con la necessità di doversi mantenere e quindi fa, disegna, cuce, fa delle cose che lei sa fare, ma non riesce a sbarcare il lunario, si rende conto che la cosa più redditizia e quella che le viene più facile è scrivere, e le viene molto facile. E quindi decide di scrivere, comincia a scrivere magari raccontini scemi per la Revue de Le Monde e per un altro giornale che adesso non mi ricordo, e in questo modo lei riesce a mantenere se stessa, la figlia, riesce a pagare i debiti del marito e riesce a mantenere tutta la sua corte dei miracoli. Dunque dice, tra le altre cose, scrive, non le piace fare la castellana e comandare su esseri umani. Quindi lei non riesce molto ad accettare il fatto che ci siano altri che lavorano per lei, la sua terra, contadini che lavorano per lei, domestici, non fa parte del suo spirito, pur essendo comunque aristocratica, non di origini, ma era comunque una donna ricca, per cui già lei ce l'aveva dentro di sé, questa impostazione filosofica socialista del siamo tutti uguali, no? Quindi semplicemente ognuno fa quello che sa fare e lo mette a disposizione della comunità, che è l'economia femminile, l'economia del dono e della condivisione. Lei a un certo punto dice, io ho guadagnato tantissimi soldi con il mio lavoro, ma di questi non mi resta in tasca nulla, perché ho dato tutto quello che ho donato, tutto quello che mi veniva, senza stare a guardare il tornaconto. È generosa con i suoi lavoranti e dà più di quanto la tenuta renda, cioè quando c'è un suo lavorante, una sua lavorante in difficoltà, lei dona e infatti spende più di quanto il marito abbia stanziato per lei. Allora che cosa fa? Per potersi mettere in pari rinuncia a vestirsi, rinuncia a comprarsi dei vestiti, se li cuce lei. Mi piace tantissimo questa cosa, mi ci sento molto. Spero che mi regga la voce. Ecco, lei scrive ogni notte per guadagnare, tutte le notti scrive per guadagnare abbastanza denaro per tutti, ma diversamente da Balzac, per esempio, che scrive tutte le notti tutto quello che guadagna, lo sperpera in cianfrusaglie. Dai, non so se conoscete la vita di Balzac, ma Balzac si era costruito una sorta di castello super kitsch nel quale continuava ad accumulare oggetti, perché il suo modo di sentirsi bene era quello di usare i soldi che guadagnava come scrittore per riempire la casa di cianfrusaglie. Lei invece i soldi che guadagnava li spendeva per dar da mangiare a tutti i suoi protégé, diciamo. E dice che non c'è niente di male nel lavoro manuale. A un certo punto nella sua biografia dice che il lavoro manuale può essere solamente mal interpretato, ma che in realtà nel cucire, nel ricamare, nel fare l'orto, nel cucinare, nello sgranare i piselli, si può trovare una sorta di misticismo, una sorta di connessione spirituale, una sorta di preghiera, di religiosità, che non è per niente sminuente. Lei stessa, che era una scrittrice riconosciuta, ma di fama sicuramente europea, che parlava da pari a pari con Luigi Napoleone Bonaparte, lei sgranava i piselli, preparava la zuppa, cioè non aveva nessun problema a fare questo. Ecco, sull'educazione, molto prima di Maria Montessori, circa 100 anni prima di Maria Montessori, lei dà un taglio abbastanza, una visione abbastanza chiara di quello che lei ritiene dovrebbe essere l'educazione di un bambino, perché dal bambino possa uscire un vero essere umano. quando lei va ad accompagnare il bambino Maurice al collegio, che è un collegio gestito in modo militare, chiaramente, e purtroppo erano i padri erano i proprietari dei figli. Quindi il padre, il barone di Devan, aveva deciso che il bambino doveva andare in quella scuola e lei ha dovuto accompagnarlo. Ovviamente il bambino è stato malissimo, fin dal primo momento, perché fino a quel momento era cresciuto con la madre che aveva alimentato tutta la sua parte artistica, mentre la scuola era gestita in modo militare, per cui il bambino fin dal primo momento si è trovato male, ma anche lei nel vedere dove doveva lasciare questo bambino. E dice, c'era un'architettura grigia, grida di bambini, grida isteriche di bambini, cioè non suoni armoniosi di bambini che giocano, ma grida di bambini disperati, facce di istitutori di ceto inferiore, li chiamare, cioè facce di persone insoddisfatte che fanno quel lavoro lì perché devono portarsi a casa il soldo e non perché siano chiamati come forma di missione. Usare il tamburo per chiamare i bambini a raccolta, proprio un puro stile da esercito, sì, no? Sì, militaresco. L'educazione militaresca, la divisa che veniva data a questi bambini era vecchia e sporca, cioè era una divisa dismessa per abituarli, per allenarli alla forza, all'essere spartani, no? Al non indulgere in frivolezze, gli davano la divisa di bambini che erano già usciti senza averle lavate. Oh, per cui sì. Lei si rende conto che questo trasmette le malattie e si rende conto che intanto non li lavavano i bambini, non li lavavano mai, sempre per tirarli su in modo da uomini, no? Non li lavavano, quindi lei racconta che quando il bambino una volta alla settimana andava alla libera uscita e lei andava a prenderlo, ci metteva 2 ore a lavarlo, a spulciarlo, a pettinarlo, perché il bambino era sporco e lì non lo lavavano e questo era il sistema. Cioè, immaginatevi la sua disperazione nel dover lasciare il bambino lì perché la legge la obbligava. Per tutto questo poi lei si è messa a lottare contro il marito, eh? Un po' il discorso delle suffragiste, della legge che abbiamo parlato, no? Del perché le suffragiste hanno lottato per poter avere il diritto di voto, proprio per questo, per non permettere più che i mariti avessero carta bianca sull'educazione dei figli. Poi vedremo un altro dramma grosso della vita di George Sand, dovuto al padre della nipotina questa volta, cioè al marito della figlia. Quindi praticamente lei dice le malattie che venivano trasmesse per colpa di queste divise che venivano passate sporche e i bambini che come lezione venivano picchiati di fronte a tutti, come quando si dimostravano deboli o non adatti o non ubbidivano subito. Addirittura c'erano dei padri che consideravano una forma di educazione far picchiare i figli dal servo davanti agli altri bambini. Questo lei lo descrive nella sua biografia. Quindi cioè, possiamo anche renderci conto di quale genere di uomini venivano fuori da lì, cioè poveretti anche loro. Mamma mia. Perché ovviamente alle bambine, le bambine tutto questo era risparmiato, le bambine non andavano a scuola. Ecco, per cui non avevano il vaso da notte, quindi non gli veniva permesso di fare la pipì di notte, dovevano tenerla, non avevano vasi da notte e gli impedivano di uscire. Questa era l'educazione di questi bambini, no? Piccoli, che avevano 6 anni, 7 anni quando venivano mandati a scuola. Tipo Sparta. E dice, dietro cattivi dolciumi, quindi queste abitudini sane come lavarli, fargli fare la pipì venivano considerate cose che li indebolivano, mentre dei pessimi dolciumi che gli rovinavano la salute, quelli venivano distribuiti. E quindi lei dice tutte queste abitudini vengono, che cosa fanno? Fanno malare i bambini. Ci sentite il messaggio di Charlotte che abbiamo visto la volta scorsa quando raccontava della scuola per le figlie degli uomini di chiesa, dove lei anche descrive nel dettaglio tutte queste abitudini che non facevano nient'altro che minare la salute. Quindi bene o male tutte queste grandi donne si sono trovate a un certo punto a confrontarsi con l'educazione. Perché? Perché a livello istintivo si rendevano conto, e neanche tanto istintivo, che se non cominciamo dall'educazione, se non cominciamo a tirare su dei bambini sani, non avremo mai un'umanità sana. È fondamentale e tutte quante si sono confrontate con questo. Quindi direi che Maria Montessori ha avuto delle predecessore molto illustri in questo senso. I ragazzi erano infelici, dice, tutto questo riusciva a rendere solo i ragazzi infelici. I bambini, scrive bellissima questa frase, i bambini non sanno lottare contro il dolore, sanno solo soccombere. Una cosa importante di George Sand che va vista è la relazione con la nonna. Abbiamo parlato in tutte queste nostre riunioni del fatto che la trasmissione è sempre da nonna a nipote. In effetti, George Aurore, come preferite che la chiamiamo? George Aurore? Aurore non ha avuto un pessimo rapporto con la madre e un pessimo rapporto con la figlia, mentre ha avuto un meraviglioso rapporto con la nonna e con la nipote. Ah. Allora, la nonna, che è quella che le ha trasmesso poi la, la tenuta di Noam, perché il papà era la mamma di suo padre praticamente. Il papà di Aurore era un uomo ricco, un uomo di buona famiglia, era il figlio di questa Maria Aurore, che era la nonna, quindi aveva avuto una cultura, un'educazione. La madre invece era una donna del popolo del quale, della quale il papà si era innamorato e l'ha sposata, però con la madre non c'è mai stato nessun buon rapporto, in particolare tra suocera e nuora non andavano in nessun modo d'accordo. La nonna di Aurore si chiamava Maria Aurore de Saxe e era nipote dell'elettore di Sassonia che divenne poi il re di Polonia. Quindi aveva sangue nobile, sassone. A 29 anni sposò in seconde nozze il 61enne Louis-Claude Dubain, che era ricchissimo. Lei aveva 40 anni meno di lui, ma era una donna molto abile, molto intelligente, molto matura e che fece la fortuna della nipote, perché se noi oggi possiamo leggere le opere di George Sand, noi dobbiamo alla nonna che le ha permesso di avere un'educazione, perché altrimenti se fosse stato per la madre, col cavolo, la madre le avrebbe insegnato a fare i cappellini. Maria Aurore, ossia la nonna, comprò la tenuta di Noam Vic perché aveva sposato un uomo ricco, quindi ha usato il denaro per comprare questa tenuta che comprendeva un castello, un bosco, una grande estensione di terra con contadini a mezzadria, che poi ha passato alla nipote. Dice, era una libera pensatrice la nonna, si proclamava socialista, non si comportava da aristocratica, leggeva Voltaire, ma siccome era di sangue blu, i socialisti la videro sempre con sospetto e quindi durante la rivoluzione fu sempre guardata con sospetto, anche se lei si dichiarava non tanto socialista quanto libera pensatrice. Una che aveva i libri di Rousseau in casa era comunque sicuramente una persona che vedeva di buon occhio la rivoluzione e la cultura, cioè Maria Aurore è quella che dà alla nipotina un fior di istitutore e che le dà tutti i libri Voltaire, cioè tutti i libri che sono quelli che l'hanno formata. Poi, quando volete fare una pausa me lo dite, se no io vado avanti come un treno. Volete che facciamo una pausa? Io non ci ho potuto fare una pausa, però troppo. Aspettiamo un po'. Quindi fu comunque durante la rivoluzione fu incarcerata, nonostante fosse una libera pensatrice, e rimase in carcere per 8 mesi. E lei non rinnegò mai il suo modo di pensare. Da questa nonna esce fuori la nipotina. Ed è grazie alla nonna se Aurore godette di una libertà che ovviamente i suoi contemporanei giudicarono eccessiva. Si vestiva da uomo fin da ragazzina, andava per andare a cavallo, si vestiva da uomo, si metteva i pantaloni, non so se questo in qualche modo vi ricorda altre figure di francesi, sono i francesi un po', queste Colette per esempio, anche lei si vestì da uomo, Coco Chanel che inventò il prêt-à-porter, inventò i pantaloni per la donna, fu la prima ad andare a cavallo con i pantaloni e ad andare a cavallo mettendo le gambe di qua e di là, perché fino a quel momento si andava con tutte le donne, andavano con... Quindi è un po' il filone francese questo della rivoluzione, molto diverso da quello inglese. Quando a un certo punto la donna si spense, anche abbastanza avanti con l'età, di un ictus, l'ultima cosa che disse a George, a Aurore, prima di morire fu: tu perdi la tua migliore amica con me. In effetti da lì in poi per Aurore cominciarono i problemi. Primo perché sua madre e quello che lei... La madre, come morì la nonna, la madre si fece avanti per vedere di mettere le mani sulla proprietà. La madre che se n'era andata, che l'aveva piantata lì con la nonna, facendo la sua fortuna, ma chiaramente la bambina risentì molto della lontananza con la madre. E poi il marito che lei sposa giovanissima, perché per poter proteggere la sua proprietà dalle sgrinfie della madre, trova questo sistema, dice ok, mi sposo e porto mio marito, così lui diventa il proprietario di Noah e mia madre non ci può mettere le mani sopra. Di fatto ci mette le mani sopra il marito, quindi in effetti poverina non poteva andarci a vivere da sola, perché questo la legge non glielo permetteva. Quindi ad ogni modo dopo lei la sua proprietà, prima l'ha persa ma poi l'ha recuperata, vedremo come. Direi che nella sua vita è stata tradita e delusa da tutti gli uomini, tutti indiscriminatamente, anche quelli che lei ha creduto di amare di più. È stata molto delusa dagli uomini, tutti quanti, si sono tutti quanti rivelati amanti inadeguati, ma non secondo quella schifezza di articolo patriarcale che non la soddisfacevano dal punto di vista fisico. È che lei proprio non ha trovato la virilità, probabilmente, in questi uomini, forse perché era così matriarca lei, era una donna talmente tanto di potere lei, che gli uomini vicino a lei scomparivano, anche i più grandi artisti lì. Anche perché mi sembra che io ho ascoltato la vita di Dorsen, e tutti gli uomini a cui si lega alla fine o dipendono da lei, esatto, o cercano di incarcerarla. Esatto, volevano che lei si nutrisse anche di altri, magari di altre persone che si chiamavano, eccetera. Esatto, a partire dal suo editore che era gelosissimo, il marito che la Chopin che fa commuta con la figlia, no? Quindi la figlia la tradisce. L'unico che le è sempre fedele è il figlio, Maurice, la nonna e la nipotina. E purtroppo anche la nipotina muore. Lo saprete, ma muore perché il padre, essendo proprietario della bambina, a un certo punto, per vendicarsi della mamma di Solange, che era la figlia di Aurore, che cosa fa? Siccome la moglie Solange lo aveva cornificato, lui decide di andare a prendere la bambina e di portarla via. La bambina era Noan, viveva Noan con la nonna. La nonna le dava un'istruzione, la bambina era felice, era sana, stava bene. Cosa fa? Il padre va con una guardia e la porta via. Perché? Perché può farlo. Questa è la cosa allucinante del patriarcato, che non è mai stata messa in risalto nei libri di storia. Cioè, che un uomo potesse disporre così della prole senza usare minimamente il buon senso. La bambina è morta per questo, perché il padre, non sapendo dove cavolo lasciarla, prende e la mette in un collegio dove le suore non le danno da mangiare, non la lavano, la lasciano al freddo, la bambina muore per malnutrizione e mancanza di cura. E la legge lo permette. Quindi voglio dire, tutto questo voi lo avevate mai sentito sui libri di storia, prima che cominciassimo a leggere queste donne? Eppure questo è quello che c'è dietro al suffragismo, di portare il sacro in qualunque azione. Noi possiamo farlo, davvero, pure. Questa è la lezione femminile, portare il sacro in qualunque azione facciamo, farla con coscienza. Sì. È un concetto che io esprimo con portare la cerimonia nella vita. Bravo, esattamente. Per esempio, quando io facevo le terapie, bravo, io ho accettato le terapie e le ho fatte pregando tutte le volte. Pregando, bravo, tutte le persone, certo, che le avevano sviluppato, tutte le persone che comunque sono stati degli uomini. Cioè, al di là di tutte le case farmaceutiche, tutto quello che vogliamo sono stati degli uomini che le hanno sviluppate. E io ho dato fiducia a quelle persone. Ho dato fiducia alle persone che sono morte, alle persone che sono. E è comunque cerimoniale. Sì. E a me ha preso molta forza, perché ogni volta che andavo a fare una cosa che poteva far soffrire, io non sono mai stata male per però perché io credo che fosse perché le ho sempre pregate. La forma è molto importante. Avanti, mamma mia, come sta indietro. Allora, 27 anni lascia il marito e paga questa sua scelta lasciando la proprietà, perché il tribunale decide che la sua proprietà di Noan debba restare al marito e lei se ne va a Parigi e lavora per mantenere se stessa e la figlia. Dunque, il marito le metteva le corna tranquillamente, la tradiva, ma questa era una cosa che agli uomini era consentita. Lei invece viene giudicata come adultera nel tribunale e tutte le opere che lei scrive vengono usate contro di lei, in particolare l'Elia, che ancora non ho letto ma conto di farlo, e Lelia, che è il titolo della, credo che sia il primo che l'ha scritto, è stato indiana, e secondo Lelia sono sempre protagoniste femminili, e tutte queste donne si chiedono, si interrogano sulla sessualità femminile, sui diritti delle donne, cioè in un modo o nell'altro lei si porta sempre avanti in questo discorso. Lelia si chiede perché le ragazze non ricevono un'educazione sessuale. Quando poi si sposano e sono terrorizzate dall'approccio dei loro mariti, perché non hanno la minima idea di che cosa aspettarsi, perché non diglielo prima? Perché tenerle all'oscuro e provocare loro questo shock? Cosa ci sarebbe di male se la madre glielo dicesse prima, no? Invece che cosa facevano le madri? Dicevano semplicemente: tu fai tutto quello che ti dice tuo marito. Questo era quello che le madri dicevano alle figlie dopo sposate, quando si apprestavano a entrare in camera da letto. Non spiegavano alle figlie che cosa succedeva, ma perché non lo facevano. Lei, Lelia, questo libro che è stato usato contro di lei in tribunale per considerarla una donna di facili costumi, lei semplicemente si dice: ma perché le madri non ce lo dicono prima? Ci risparmierebbero un sacco di patemi d'animo, un sacco di sofferenza se ci preparassero prima a quello che ci deve succedere. Probabilmente le donne non si sposerebbero più se lo sapessero prima. Ma oltretutto, io ho scoperto di recente una, lo racconto perché magari vi può interessare sapere, ho scoperto di recente che le antiche sapienze umoristiche, eccetera, tipicamente femminili, sono state sfruttate in questo senso, soprattutto nel sud Italia, proprio per questa questione, nel senso che alle donne, me lo raccontava un amico che sta studiando anche a Roma di Latina, che l'olio essenziale di neroli, che è stato dalla Nocciola, serve proprio a far passare la paura, a rilassare, a prendere la preoccupazione, e alle spose del sud facevano questi grandi bouquet in modo da fare di fiori d'arancio, in modo da stordirle prima della notte di nozze. Signore. Perché non sapevano che cosa stessero andando incontro, che dovevano essere docili con il marito. E quindi si portavano in giro tutto il giorno questi fiori d'arancio sotto il naso per passare al giorno. Sì. L'ho trovato terribile. Beh, comunque è meglio essere stordite che coscienti, sì, di essere stuprate, sì, assolutamente. senza anestesia. Ma la maggior parte venivano stuprate. Condanna la pratica finché non fa come dove. Va bene, certo, sotto forma di bouquet, però non è che gli davano magari l'olio essenziale da usare, perché quello sarebbe stato da streghe, invece il bouquet andava bene. Allora, lei scrive, ditemi voi se questo che vi leggo adesso può essere stato scritto da una donna di facili costumi. Dice, Dio, vabbè, lei parlava di Dio, però, scritto minuscolo, Dio che ha messo l'amore e la volontà negli amplessi di tutte le creature, scusate, l'amore e la volontà negli amplessi di tutte le creature, non ha forse dato il discernimento a tutte? E l'essere umano, che è il più elevato, non avrebbe il sentimento o il sogno di questa unione necessaria dei sensi con l'intelletto? È chiaro che lei non cerca il sesso per il sesso, se scrive questo. Parla di amore, parla di intelletto. Questa incontestabile verità è così poco osservata nella pratica, attenzione, che le creature umane si uniscono e i loro figli nascono a migliaia, senza che il vero amore abbia presidiato una volta su mille all'atto sacro della riproduzione. Ma è incantevole questa cosa, è di una bellezza, di una profondità, di un misticismo, che ma le nostre sessuologhe ci fanno una pippa a confronto a questa, che scrive in questo libro che è stato usato contro di lei, perché è stato usato come prova che lei era di facili costumi. La legge divina è trasgredita ogni volta che un uomo e una donna uniscono le loro labbra senza unire i loro cuori e le loro intelligenze. Se la specie umana è ancora lontana dal fine cui possono farla aspirare le sue facoltà, questa è una delle cause più funeste. Per procreare non è sufficiente essere in due, occorre essere in tre, un uomo, una donna e il divino in loro. Ma, mamma mia, bellissimo. Cioè, io sono senza parole. Ma maestra, Aurora, vieni, aprici la mente. Scusami, rileggi quella frase lì, ogni volta che un uomo e una donna uniscono le loro... La legge divina è trasgredita ogni volta che un uomo e una donna uniscono le loro labbra senza unire i loro cuori e le loro intelligenze. Sì, se vuoi lo trovi su Facebook, l'ho pubblicato nella pagina della scuola. Se il pensiero del divino è estraneo alle loro estasi, forse faranno un bambino, ma non faranno un uomo. L'uomo completo sarà creato soltanto dall'amore completo. Due corpi possono mettersi insieme per produrre un corpo, ma solo il pensiero può dar vita al pensiero. Quindi noi della libertà abbiamo soltanto l'aspirazione, poiché siamo nati da un atto cieco e passivo della volontà, operato da due corpi servili assoggettati alla schiavitù della carne. Pensate come non avevano capito un accidente di vita e come continuano, perché questo articolo che io ho letto, Giorgio Sandro e lo sputtanamento di, non mi ricordo cosa, so, praticamente l'autore riteneva che Giorgio Sandro avesse sputtanato l'amante di turno, Mary Mamie, mi sembra, perché la prima notte di nozze, prima notte che si sono trovate insieme, lui ha fatto cilecca, no? Che non era vero niente, perché lei era talmente materna che se li nutriva tutti quanti. Non, cioè, una donna così non può sputtanare il suo amante, usando una parola orribile, però è scritta nell'articolo, è un articolo di una rivista letteraria, scrive, titola così, no? George Sand, o lo sputtanamento di Mary Mamie, perché secondo questa visione patriarcale lei cercava la copula, ma dov'è in tutto questo, in queste parole? Io mi sento offesa, mi viene da piangere a pensare come le nostre maestre, le nostre anziane sono state insozzate, come continuano, perché questo articolo era, mi sembra, del 2013, quindi non tanto vecchio. E continuano a scrivere le stesse cose, nonostante il femminismo, nonostante Virginia Woolf, continuano a scrivere le stesse cose trite e ritrite. George Sand non viene insegnata nelle scuole perché viene considerata una donna di facili costumi a fronte di una roba così. Ma cioè, io mi arrabbio, non ce la faccio a star calma. Abbiamo tutto qua, abbiamo tutto veramente per migliorare noi stessi e la nostra prole. Quando un essere umano, uomo o donna che sia, scrive lei, si è elevato fino alla comprensione dell'amore completo, non gli è più o non le è più possibile, anzi non le è più permesso tornare sui suoi passi e fare atto di mera animalità. A lei a questo ovviamente ci è arrivata da sola, non mi risulta che ci sia arrivata con nessuno dei suoi amanti, quindi deve aver avuto a un certo momento un momento di lucidità, una presa di una toma di coscienza, come dicono in Sud America, un'illuminazione, un qualche cosa che le ha fatto vedere tutto questo, perché sicuramente non ci è arrivata attraverso un amplesso ottenuto con un uomo. Ebbe una relazione con Marie Dorval, con l'attrice Marie Dorval. Io non lo so se è stata una relazione omosessuale, francamente non mi interessa. Quello che ho notato è che tutte le grandi donne a un certo punto della loro vita hanno avuto questo tipo di... l'ho avuto Hildegarda, che ha avuto questo affetto enorme per Hjardis von Staden, la sua pupilla, la sua diletta, che quando se n'è andata da Bingen per andare a fare la badessa da un'altra parte è morta addirittura, per obbedire al volere del fratello, chiaramente, con scopi politici. L'ha avuta Gabriela Mistral, che ha avuto è stata ovviamente accusata di essere omosessuale, però non sappiamo, e chi se ne frega, oltretutto, verso questa sua discepola, che era Doris Dana, una giovane scrittrice californiana, che fu la sua biografa, che la accolse, che la curò fino agli ultimi giorni della sua vita, e con molti anni di differenza, c'erano circa 20 anni di differenza di età in tutti i casi, non ultima, per esempio, Virginia Woolf con Vita Sackville West, e in tanti altri casi c'è questo rapporto doppio, questo rapporto che non può essere omosessuale, perché sennò sarebbe andata con tante altre donne, è proprio una forma di innamoramento. Io non lo so se riguarda anche i sensi, ripeto, non mi interessa. Io credo che sia un certo momento in cui si ha bisogno di una compagna, di una donna che ti faccia da specchio, che ti aiuti a vedere quello che di te non vedi, che è più vicino alla sorellanza. In realtà può essere anche un coinvolgimento d'amore, ma è una roba che va oltre i sensi, che trascende, che è proprio una forma di amore totale, quell'amore dove chiama qui, aspetta, la comprensione dell'amore completo, che probabilmente si riceve, si scatena, si risveglia quando si trova una compagna con la quale poter fare un lavoro di di specchio specchiarsi a vicenda, ma come poteva essere tra Agnese e sua sorella, per esempio, come può avvenire a me con Teresita, che è la mia sorella d'anima. Io questa cosa non l'ho trovata finora con nessun altro, solo con lei, che purtroppo è a Madrid, la vedo una volta all'anno, però per me questo è, cioè lei è in qualche modo, io non sono omosessuale, non ho nessun rapporto amoroso con Teresita, però con lei a me succede che io vedo me stessa riflessa, non so spiegare perché, però ho la sensazione che succeda solo con un'altra persona, con una, è come se fosse un'anima gemella dello stesso sesso, ho questa sensazione. E anche, anche lei ha questa sorta di innamoramento, che ovviamente la critica patriarcale, si vestiva da uomo perché era lesbica, perché andava con le donne, in realtà si vestiva da uomo, abbiamo visto perché, perché lei stessa lo dice, e in realtà non andava con le donne, ma ha avuto soltanto questa relazione con Marie Dorval, e non sappiamo se è stata anche fisica, perché nessuno ce lo dice, lei non ne ha mai scritto, nella sua biografia non c'è scritto niente di che riguardi, quindi chi, e oltretutto chi se ne frega, sì, guarda, saranno fatti suoi, no? Saranno fatti suoi. Sì, appunto, cioè. Se è stato e se l'è goduto benissimo, probabilmente con tutte le delusioni maschili che ha avuto, magari. Però vabbè, quelli poi sono affari suoi. Fu una donna indipendente, autonoma, pratica e libera, e parlò da pari a pari con i più grandi geni della sua epoca, da Flaubert fu l'ultimo dei suoi amanti, ma che per lei fu quasi un figlio, perché era molto più giovane di lei, e Flaubert la vede, la venera quasi come una musa. Mérimée, Zola, chi altri? Chopin, come si chiama quell'altro? Quello del secolo con cui andò a Venezia. Quindi cioè, lei parla da pari a pari con questi personaggi, ma lei parlava da pari a pari con Luigi Napoleone. Cioè, quando scoppia la rivoluzione, lei scappa a Nuan, tutti i suoi amici socialisti vengono incarcerati, lei prende e va da Luigi Napoleone e gli dice: adesso tu mi liberi i miei amici. E lui glieli libera, perché lui, Luigi Napoleone Bonaparte, ha molto in considerazione quello che scrive e pensa George Sand. Una cosa di questo genere l'abbiamo vista, o la vedremo, con Hildegarda parla col Barbarossa, da pari a pari. Sabina Spierrein parla con Freud, da pari a pari, anche se ha 30 anni meno di lui. Cioè, queste donne così illuminate non hanno soggezione degli uomini, sono gli uomini che hanno soggezione di loro. Questa cosa è interessantissima, perché se una donna, cioè io in mente la Abuela Kili, vorrei che ci ricordassimo le parole esatte, perché secondo me quella formula che lei dice è una formula, è un mantra. Mi volontà soverana, la toma di coscienza, la volontà soverana fa sì che io diventi in qualche modo una donna risvegliata. Una donna nel pieno possesso di tutta la sua energia, di tutte le sue memorie, di tutte le sue facoltà. A quel punto non c'è niente che mi possa mettere sotto. Perché? Perché la donna risvegliata è l'emissaria, questo sta arrivando adesso, è l'emissaria della grande madre, in questa dimensione, è il tramite, ecco perché nessuno può mettere sotto una donna risvegliata, ecco perché nessuna di queste donne è stata mai tacitata completamente, continuano ad essere vive, continuano a lasciarci il loro messaggio, nessuno è mai riuscito a far sparire completamente, noi adesso le stiamo recuperando, e non hanno mai avuto paura di dire quello che pensavano, neanche di fronte a Roma. Ma Elfrieda da Pirova non sapeva che sarebbe andata su Roma, ma c'è andata lo stesso, perché sapeva che era quello che Giovanna d'Arco non ha rinnegato, cioè ha ritrattato, ma poi ha ritrattato la ritrattazione, per cui vabbè, volete che facciamo una pausetta? Sì, un attimo, sì. Sicuramente una donna di grandissima lucidità, di grandissima intelligenza, di grandissimo coraggio, perché lei è andata in tribunale per divorziare e il marito non lo voleva, non glielo voleva permettere, non perché gli importasse qualcosa di lei, ma perché aveva paura di perdere lui il suo onore. No, in ogni caso la proprietà rimaneva lui. Lei poi riesce a recuperare la sua proprietà semplicemente perché lui la gestisce talmente male che le proprietà stanno in rovina. Per cui lei praticamente gli propone uno scambio, gli propone di ridargliela, lui se ne va a vivere da un'altra parte, lei gli passa dei soldi, mi pare che sia così più o meno. Lei gli passa dei soldi e lui va a vivere, va a fare quello che gli piace e lei si riprende in mano la sua Noan, che nel frattempo era quasi in bancarotta perché il marito non era in grado, non era capace, e lei la rimette in piedi, la salva. Quindi in realtà lei riesce a recuperare la sua proprietà perché è astuta, cioè ma la legge, nel momento in cui lei lascia il tetto coniugale e l'avvocato che la difende, che tra l'altro è uno dei suoi amanti, Michel de Bourges, porta in tribunale, legge alcuni brani di Lelia, i brani che abbiamo letto noi, quindi dicendo cerchiamo di capire chi è questa donna, perché sta facendo questo, no? Quindi la difende come donna emancipata, quindi alla fine lei riesce ad avere, vince, il suo avvocato vince sull'avvocato del marito, che è lo stesso avvocato che poi le porta via la bambina, quindi si vendica così, lo stesso avvocato, no? Infatti lei quando il genero le dice adesso mi dai la bambina, perché l'avvocato bla bla bla, dice chi è il tuo avvocato, e lui le dice quel nome, dice ah, ho capito perché sta facendo così, perché si deve vendicare che l'altra volta ha perso il processo sulla pelle di una bambina. Sì. Veramente, che orrore. Sì. Cioè voglio queste donne di cui stiamo parlando, non ce n'è una che abbia avuto una vita tranquilla, sono passate tutte attraverso questa roba qua, è come se in qualche modo il dolore e la sofferenza fosse una fucina per tirar fuori il coraggio, sì, la determinazione. Bene, direi che su Giorgio e Sandra abbiamo finito. Io vorrei parlare ancora di Johanna Spyri, che l'altra volta è saltata, e vorrei dire ancora qualche cosa di Louisa Alcott. Voi avete preparato qualcosa su George Sam? Volete parlarne adesso o finisco io parlando? Tutte, siete d'accordo tutte che vado prendo io? Sì, sì, sì. Cosa avete preparato? Qualcosa per oggi? Cosa? Preparato? Io personalmente no, però è qualcosa da condividere sicuramente. Allora finisco. Sì. Allora, il filo conduttore un po' di tutto il lavoro di oggi è la questione dell'educazione dei bambini, che è abbastanza prioritaria. Controllare che stia ancora registrando. Sì, è abbastanza prioritaria per tutte le donne delle quali abbiamo parlato, in un modo o nell'altro, in una forma o nell'altra. Johanna Spyri è l'autrice di Heidi, è svizzera. Heidi è uno dei tanti romanzi scritti da donne che sono stati assolutamente sottovalutati, considerati letteratura infantile, mentre in realtà hanno un chiaro intento pedagogico, un po' come Anna dai capelli rossi, tutta la saga di Anna dai capelli rossi, che parla di una ragazzina orfana che alla fine si laurea e ce la fa, quindi è la storia di un riscatto femminile, anche se in termini molto romanzati. È un po' la storia delle piccole donne, di Jo March, delle piccole donne, della creazione, della loro scuola. Quindi stiamo parlando 40 anni di Fanny Steiner e 40 di Maria Montessori. Johanna Spyri scrive Heidi, nasce nel 1827 in Svizzera, quindi circa 25 anni dopo George Sand, e muore a 74 anni, piuttosto anziana. Comincia a scrivere quasi per caso, a 40 anni suonati. Parla, lei crea in Heidi, ovviamente non è l'unica cosa che ha scritto, ma è quella che è più famosa, e io vi consiglio quanto più di ascoltarla su YouTube, c'è una versione letta da non so che attrice, mi sembra la voce di Lella Costa, però non potrei dire, dei cantastorie, c'è cioè in quattro parti, la versione di Heidi letta, audio letta, che è deliziosa perché è molto di più ovviamente del cartone animato. C'è anche tutta la parte filosofica che il cartone animato in qualche modo non riesce a vedere. Ecco. E questa nuova didattica, che l'educazione che si ottiene con la pazienza, con la dolcezza, cioè si insegna ai bambini come se fosse un gioco. Di fatto Heidi, fino a che cerca di insegnare a leggere la signora Rottenmeier, la signorina Rottenmeier, non impara a leggere, impara poi con la nonna, quella che lei chiama nonna, la nonna di Clara, che come un gioco, no, le regala il libro con le figure, poi una parola per volta, le insegna. Questo è molto montessoriano, è un'anticipazione di Montessori, di Steiner anche, ossia apprendere come un gioco, non come una forma, non come un obbligo. La madre, abbiamo una figura di donna in cui è importante la figura della madre, perché Meta, la madre di Johanna, era poetessa, era una donna istruita, e c'è una cosa in comune tra Johanna Spyri e Luisa May Alcott che è molto interessante. Entrambe sono vissute in una famiglia che aveva un'impostazione spirituale, dove il padre faceva parte di un movimento spirituale olistico che quindi ha dato un'impronta spirituale a tutta la famiglia, non cattolica, non cristiana, proprio spirituale, spiritualista, quei movimenti che nascevano all'inizio dell'Ottocento, no? In cui si cercavano questi modi alternativi di vivere in comunità, vegetariani. Quindi è un movimento spirituale agnostico, quello della famiglia, dei genitori di Johanna Spyri, che fu decisivo nell'educazione della figlia. In casa con loro vivevano anche le zie, quindi lei ha sentito forte una presenza femminile, la mamma, le zie, le sorelle. Era un ambiente amorevole dove le donne si sostenevano a vicenda e si amavano. Il padre era medico, ma era un medico olistico. Lui ospitava i malati in casa e li faceva parlare, gli dava ascolto, perché si rendeva conto che anche la loro parte emozionale. Quindi Johanna ha vissuto decisamente in un contesto privilegiato rispetto ad altri bambini. Anche se poi è arrivata a scrivere di questo e a elaborare la sua teoria didattica in modo completamente avanti con gli anni e passando anche lei attraverso il dolore, perché c'è sempre questa cosa del pagare il prezzo. Io finora l'ho sempre trovata in tutti, cioè anche lei arriva a scrivere dopo che le muore il marito e il figlio, lei comincia a scrivere e scrive Heidi. Marito e figlio? Sì, tutti e due. Quindi i suoi fratelli furono avviati all'università, lei no, perché ovviamente non veniva nemmeno in mente, ma le fu permesso di studiare con il pastore del villaggio e di frequentare una scuola di francese. Quindi rispetto ad altre bambine ebbe comunque un'educazione privilegiata. E scriveva, lei si sposò, ebbe un bambino a 30 anni, scriveva alla sua amica, è interessante questo perché è proprio la dimostrazione di come quando non adempi alla tua missione di vita non puoi essere felice, neanche se apparentemente le cose intorno a te sono perfette, la gente ti guarda e dice, beh, che cosa vuoi più possibile? Che lei non stava compiendo la sua missione di vita, lei era venuta per fare altro, per scrivere anche, per lasciarci questo messaggio, a 30 anni ancora non lo stava facendo. E scrive, cara Betsy, in me alberga un senso di nullità, tutto ciò che desidero, tutto ciò che faccio e per cui vivo è soltanto una costrizione. Siedo in casa e lascio che i giorni scorrano. Nello stesso tempo in me regna il silenzio, come un bruco. Guardo attraverso la mia giovane vita e lascio dalla vecchia togliere dalla superficie ciò che deve essere sacrificato. Nello stesso tempo divengo sempre più silenziosa. Cioè, queste donne ci sono già passate dove siamo noi adesso, ecco perché per noi è importante rifarci a loro. Le abbiamo già le parole, non occorre trovarle di nuove. Lei sta descrivendo la nostra situazione di adesso, cioè in una fase di stand-by, di stallo, in cui si rende conto che le cose non vanno bene ma non sa cosa fare, si mette come un bruco in ascolto. È sciamanismo questo è sciamanismo, vero. Perché cos'è la sciamana? La sciamana è un essere che si mette in ascolto attraverso le dimensioni, che crea dei collegamenti tra le dimensioni. Questa è la sciamana. Non è una con la penna in testa che suona il tamburo e ti dà da bere l'ayahuasca. Questa è l'idea che noi occidentali patriarcali abbiamo della sciamana, ma non è questa in realtà. Io la maci quando sono andata da lei, non ha fatto niente di tutto questo. Quando mi ha detto venami in casa mañana, vieni a casa mia domani, io sono andata, ma ho fatto da mangiare. Perché questo è quello che fa una donna, che sia una donna di conoscenza, tutte le donne lo so. Cosa fa la prima cosa? Ti dà da mangiare, è quello che fa qualunque donna. Tutto il resto sono balle, tutto il resto è marketing. Sono un po'... mi rendo conto che in questo momento sono un po' borderline, però sono veramente nauseata di tutto quello che vedo spacciare per sciamanismo, quando io so benissimo che non lo è, solo una maniera per far quattrini, rovinando quello che invece potrebbe essere veramente. Cioè io davvero, il mio essere sciamana io lo manifesto nel cucinare la zuppa, nel occuparmi della mia casa, nel togliere le erbacce in giardino, nell'andare sulla tomba della Margherita a vedere di che colore sono i suoi lacci. Cioè, non c'è niente di pubblico che io faccia in questo momento come sciamana. Quello che faccio come sciamana è nel mio privato. Non ho bisogno di andare a sbandierare nulla e diffido tantissimo di tutti quelli che si propongono come sciamani e sciamane, specialmente quelli che lo fanno su Facebook, perché cioè, da quello che vedo io veramente il livello di coscienza è tanto così. Gran soldi che girano, tanti, e non molto da condividere. È molto più valido secondo me stare ad ascoltare quello che hanno fatto le donne che sono venute prima di noi, ma con tanta umiltà, perché sono state delle grandi donne. Io da quando studio elenco, ma io mi sento piccola così veramente, ma tutta l'arroganza che avevo prima a pensare di aver scritto, pensato, fatto, detto chissà che, no, non ho fatto niente di nuovo, è già stato tutto quanto detto e fatto, basta riconoscerlo. E queste donne sono state immense, perché ogni volta hanno rischiato la vita. Io non ho ancora rischiato la vita, forse qualche volta nei viaggi sì, ma non solo dare il carro, magari ho rischiato la vita in altri modi, perché ho bevuto dell'acqua contaminata, ho mangiato l'uovo con la salmonella, ma non era un atto eroico. Ok, quindi... allora, comincia a scrivere casualmente a 44 anni, perché un pastore di Brema le propone di scrivere dei testi da pubblicare sul bollettino della chiesa. Pensate quanto distante. E questo ebbe successo, la lesse molto e questo la spinse ad andare avanti. Il successo con Aida arriva dopo i 50 anni, quindi arriva relativamente tardi, perché lei non ci pensava, lei pensava di fare la moglie e la madre. Scrisse molti altri racconti, ma Heidi la rese famosa in tutto il mondo. Nel frattempo morirono suo figlio e suo marito, e a più di 60 anni lei, come il De Garda, è interessante. Io noto sempre dei grandissimi collegamenti nelle vite di queste grandi donne. Anche il De Garda, dopo i 60 anni, si mette a viaggiare, si mette a predicare in tutta la Germania, si fa giorni e giorni di viaggi a dorso di cavallo a 60 anni, cioè stiamo parlando dell'anno 1000. Quindi, e si mette a predicare. Io mi sono guardata sulla Google Map, ma da Francoforte a Magonza, da Brema a Dresda, la Germania è grande, lei si la percorreva a 60 anni a dorso di cavallo, rende caro, cavolo. Questo è lo stesso, a 60 anni, che magari non a dorso di cavallo, però dopo i 60 anni le comincia a viaggiare e andare in giro, fare conferenze, parlare, cambia casa, scrive molto e sembra riferire fuori dal matrimonio. Perché lei non stava onorando la sua missione di vita, questo è molto sciamanico. Mi raccontò la Maci, la Longo Maria Rosa Chignanau, questa Maci che ho incontrato in Araucania, che le sciamane si ammalano quando non stanno compiendo la loro missione di vita, e che lei si è accorsa di essere sciamana perché a un certo punto si era ammalata, a me è successo anche, si è ammalata e non riuscivano a curare in nessun modo, fino a che lei non è andata dalla Maci, che c'era nel villaggio prima di lei, la Maci le ha detto: tu devi diventare una Maci, per questo che ti ammali, perché non stai ignorando la tua missione di vita. E anche lei, senza sbandieramenti, senza rivestirsi questo ruolo profetico, però lo ammette che fuori dal matrimonio, dalla vita matrimoniale, rifiorisce, scrive, ha successo e soprattutto ci lascia questa meravigliosa impostazione didattica, pedagogica, che secondo me ha ispirato poi Steiner e Montessori, perché sono molto simili nell'approccio. Dunque, Scrisse 31 libri, conosciuta amata da tutti i lettori, crea dei personaggi dove i bambini che crescono ai margini della società, che sono spesso ammalati e che non riescono a recepire i metodi educativi degli adulti. Come diceva prima George Sand, i bambini non sono strutturati, non riescono a rispondere al dolore, non riescono a reagire. Non reagiscono al dolore. Lo subiscono, esattamente. Lei si accorge della stessa cosa. Negli anni 70, ecco, c'è da dire, le femministe la reputarono un modello conservatore, perché in questo suo modo di scrivere, dove lei, francamente non lo so, non riesco a capire perché la reputarono un modello conservatore, perché viaggia, è sola, non si, però io questo l'ho trovato nelle fonti. Probabilmente perché reputano che la storia di questa bambina sia un po' troppo bucolica, non lo so, un po' troppo staccata dalla realtà. C'è da dire che gli anni 70 sono quelli degli anni di piombo, quindi questa sorta di letteratura molto cruda, no? Simone de Beauvoir. Quindi la bambina che senza scarpe corre dietro le capre, probabilmente alle femministe è sembrata non abbastanza seria, un po' disdicevole alle femministe di allora. Quindi non l'hanno cavalcato molto, ma del resto le femministe non hanno cavalcato neanche Le piccole donne, neanche la Montgomery, quella del, come si chiama, di Anna Carrera Rossi, era Virginia Woolf, era Simone de Beauvoir, erano le intellettuali, però ancora adesso è un po' così, eh. Io mi ricordo che una volta che avevo cercato di contattare la Casa delle Donne a Roma, che è la Casa delle Donne, per portare il Circolo Planetario delle Donne, mi hanno chiesto: ma chi siete? Ma ho detto: siamo un gruppo di donne eterogenee, dalla parrucchiera alla dentista, alla scrittrice, alla casalinga. Ah no, no, noi facciamo un discorso politico. E ma cosa vuol dire? O sono laureate o noi non le vogliamo, no? Perché la parrucchiera e la casalinga non possono fare un discorso politico. Mi hanno tagliato fuori, non mi hanno dato proprio nessuna possibilità di andare a presentare questo cerchio, che secondo me era un miracolo, perché era davvero una cosa democratica, dove la dentista con due lauree, perché la nostra amica, la dottoressa Nicoletta Colavolpe, era laureata in medicina e in psichiatria, quindi due lauree, si metteva allo stesso livello di una che aveva sempre solo fatto la mamma in vita sua, una casalinga, senza minimamente che ci fossero. In realtà la casa delle donne, quindi femminismo, scusami, lo so che ti ferisco in questo modo, però questa è la mia esperienza, no, le femministe non ci hanno voluto cagare neanche di striscio, perché non eravamo abbastanza intellettuali per loro. In realtà non difende il discorso, e anzi, trovo che all'interno di certi circuiti femministi tale esclusione sia purtroppo una costante. Sì, perché sono solo politici. Ed è quella la cosa che mi ferisce. Non tanto il fatto che altre donne abbiano sperimentato questa incoerenza, ma il fatto che esista, perché sì. mi disturba molto. Però si ripete molto spesso. Sì, sono la prima a riconoscerlo e a soffrirne. Sì, perché è ritenuto comunque che la spiritualità sia una roba per deboli, sia una roba dei preti, no? Mentre in realtà la spiritualità è proprio quello che nutre. Se tutte quante le femministe improvvisamente accogliessero la spiritualità nelle loro pratiche, probabilmente il movimento diventerebbe molto più forte. Il fatto che rimane diviso perché si nutre solamente ed esclusivamente qua. Sì, si nutre qua e non si nutre qua. Qualcuno lo sa. Noi in cui si sta unendo, però vengono da un percorso comunque molto più politico razionale, sì. Perché non è tanto politico, anche la spiritualità, secondo me. Sì, intendo politico partitico, cioè. Esatto, sì. Però diciamo che stanno integrando. Sì, io sento che c'è un ti do ragione, la mia editrice, Antonella Barina, l'inizio dell'autrice, è stata una femminista militante negli anni 70, adesso mette i quarzi nel giardino e fa le pratiche, parla col gatto, sono assolutamente d'accordo con te. Però lei è stata tagliata fuori da tutti i movimenti, cioè non le rivolgono più la parola, le sue ex compagne l'ha tagliata fuori perché pensano che sia andata fuori, che non legge nei convegni, non leggono più le sue letture. Questa è una che scrive, Antonella Marina, che scrive PS in veneziano, in rima veneziana, in rima, cioè neanche Goldoni, e non è minimamente presa in considerazione la sua opera, il suo lavoro, le poesie che scrive sono una roba di una bellezza. Lei scrive in cose, come si chiamano quelli in tre righe? In poche sillabe, gli haiku, ma sono straordinarie. Se volete, nella scuola delle donne, io ho fatto una selezione antologica delle sue opere perché ho voluto darle visibilità, è un genio questa donna, è tagliata fuori da tutti i movimenti. Per cui sì, lei è una femminista che ha integrato la spiritualità, ma dal grosso del movimento le donne che integrano la spiritualità sono ancora viste come in qualche modo come se fossimo meno credibili. Peccato. Sì, così voi. C'è ancora strada da fare. Allora, Alice... No, volevo solo chiedere, diciamo semplicemente che secondo me in realtà il movimento femminista si nutre proprio di cerchi, si nutre di condivisione, di parità, di inclusione. Quello che a cui assistiamo oggi in realtà in tanti ambiti non è questo, e tante volte quando mi dicono no perché le femministe, a me viene da dire perché non sono femministe le persone che praticano il femminismo in questo modo. Cioè sì. Siamo d'accordo, è una parola che andrebbe ripetuta. A proposito di creare neologismi, ne avremo bisogno. Sono d'accordo con te sul fatto che il femminismo si sta nutrendo di cerchi, ma cioè io voglio vedere in quanti cerchi di donne hanno letto Rosa Luxemburg, per esempio. Cioè è questo il punto, chi partecipa o fa i cerchi, tranne pochissime persone, è di un'ignoranza abissale sul discorso filosofico, culturale, perché sono ritenute due branche del sapere, due branche che non si uniscono. Questo è quello di rivoluzionario che stiamo facendo noi, perché noi stiamo pregando fino a Santa Virginia Wolf. Cioè lo stiamo facendo, non so se riesco a io ne ho frequentati di cerchi, ne ho condotti tanti, ma la maggior parte delle donne aveva pochissima cultura. Mentre le donne che hanno cultura non hanno, diventano un faltezzoso, non hanno, no? Ecco. Ok, allora Heidi, prima cosa che fa quando arriva in montagna dal nonno, si toglie i vestiti e le scarpe e rimane in sottoveste. Già lì abbiamo un chiaro segnale, no? Ovviamente la zia dà il nome, invece il nonno dice: boh, se non ti vuoi. Il nonno è un po' il. Io avrei preferito di più se fosse stata una nonna, però vabbè, poi la nonna ce la infila dentro più avanti. Probabilmente la figura di una donna che vive da sola in montagna era impensabile perfino per Johanna Schiri, e questo nonno le dice: se non ti puoi mettere, non te li metti, lasciali nell'armadio. E lei dice: anche le capre non hanno i vestiti, se loro non li hanno perché li devo mettere io? E seguire l'istinto, Heidi segue l'istinto, il nonno le permette di seguire l'istinto in tutte le sue manifestazioni, regola numero uno per educare i bambini. Lei si fa il letto col fieno alla bambina, sì. Il nonno dice: trovati il posto dove ti pare, mettiti a dormire, dove mi metto a dormire nonno, dove ti pare? E lei sceglie di andare nel fienile, fa un mucchio di fieno e il nonno le mette, non è che le dice no, devi andare nel letto, ti piace lì, dormi lì, e le fa un mucchio un pochino più grosso, mette sopra un lenzuolo, lei va fuori, prende delle margherite, cosparge questo lenzuolo di margherite perché le dà l'idea di dormire in un prato e glielo lascia fare. E la bambina, finché dorme col nonno, è sana ed è felice, si ammala quando poi la portano via da lì. Vive nella natura, al sole, a piedi nudi, e ovviamente anche il nonno cambia, questo è molto bello perché il nonno cambia avendo la bambina, quindi tutte quelle rigidità, quel distacco, soprattutto che cosa fa Heidi, questo è il bello del messaggio, riavvicina il nonno alla comunità. Prima il nonno veniva giudicato perché non andava in chiesa, ma scherzi il vento, ma sai che non va neanche in chiesa, questo è il commento, no? Quindi c'era questa discrasia tra il nonno che era un essere libero, selvaggio, che sta per conto suo, che non viene accettato dalla comunità perché non va in chiesa, e grazie alla bambina queste due cose scisse si riavvicinano. Il nonno va a fare i lavori, va a mettere a posto la casa di Peter, il bambinetto che viveva con la mamma e con la nonna cieca, col tetto che cadeva a pezzi, eccetera, eccetera, Heidi dice no, no, andiamo a trovare Gordon, la pedra, aiutiamolo, e il nonno gli mette a posto la casa, fa i lavori, quindi grazie a Heidi. Tutta questa è una bellissima metafora di come l'innocenza e il cuore, in effetti, riescano a riavvicinare gli opposti. Ma non soltanto una metafora, anche proprio un metodo educativo a tutti gli effetti. Dunque, la zia la va a riprendere perché Heidi non va a scuola, e questo è contro la legge. Quindi, siccome la bambina non va a scuola, la zia la va a prendere e la porta a Francoforte, nella casa dei Kaufmann, Hausmann, non mi ricordo come si chiamavano. Seesemann, bravissima. E ecco, la zia ovviamente, il nonno non vuole lasciarla andare, ma lei lo minaccia, dice ti mando la polizia perché è contro la legge, devi farla andare a scuola per forza, quindi il nonno è costretto a lasciarla andare, la bambina piange strepita, però non può farci niente, la zia la porta in casa dei Seesemann, dove incontra la signora struttura. Ovviamente qui siamo anni luce lontano da Charlotte Bronte, no? È la figura amorevole dell'istitutrice, questa è proprio la classica odiosa governess che distrugge tutto quello che di buono c'è la bambina, infatti la bambina dimagrisce, deperisce, piange tutte le notti, la rottamaia cerca di farle bruciare il cappellino di paglia a cui la bambina è affezionata perché dice quel cappello è orribile, e la costringe a stare tutti i giorni, mezza giornata, seduta con le gambe sotto un tavolo per assistere alle lezioni di Clara. In questo modo la bambina non impara niente, perché non riesce a stare ferma, perché è abituata a muovere, non impara a leggere. E quindi la Rottenmeier poi dice al signor Seda, al papà di Clara, quando torna a casa, dice questa bambina è ritardata, non impara niente, non ha imparato niente. Dice tu che cosa hai imparato finora? Le chiede quando arriva in casa. Lui dice ho imparato a mungere le capre, ho imparato che i fiori se li cogli muoiono. È bellissimo. E lei dice, ma no, io intendo che libri hai letto, libri, ma io non so leggere, dice la bambina. Ah! Si mette le mani nei capelli, la Rottenmeier, come no? Dice, ma Peter mi ha detto che è tanto difficile leggere. In realtà poi la nonna riesce a insegnarglielo attraverso, usando la pazienza e la dolcezza, scopre che la bambina è per niente ritardata, ma è anche molto intelligente, molto sveglia, solo che serviva un metodo diverso. Cosa succede? Quando Heidi torna poi, ovviamente la nonna di Clara si rende conto che la bambina sta male e che bisogna rimandarla dal nonno, la rimanda dal nonno e Heidi insegna a leggere a Peter usando lo stesso libro di fiabe che le aveva regalato la nonna. Dice guarda che non è per niente difficile, ti insegno io, e gli insegna. La bambina racconta quella, la cosa che le faceva male più in assoluto era quando si svegliava la mattina, andava per aprire la finestra per guardare fuori ed c'erano tutte le finestre sprangate, non si potevano aprire con queste cortine pesantissime. Quindi questo metodo educativo della Rottenmeier totalmente sbagliato, che è solo controproducente, che poi è quello che sviluppa la Montessori, ma è anche quello che sviluppa Sabina Spielmann. Sabina Spielmann, che da malata di mente si laurea in psichiatria e dalla Svizzera se ne torna in Russia e crea l'asilo azzurro, che cosa fa? Utilizza questo stesso sistema, questo stesso metodo di amore, di pazienza, di comprensione con i bambini altamente problematici che le vengono mandati nell'asilo azzurro. Bambini con problemi di comportamento, con disturbi della personalità. Quindi c'è sempre questo messaggio di fondo, che è lo stesso che George Sand ci dà, perché George Sand educa non solo la sua Didi, la figlia di Solange, e questa è una parte che ho dimenticato, fino a che la bambina non muore, ma educa lei personalmente i due figli di Maurice, e li educa nella natura, li educa in questo modo, con la pazienza, con la dolcezza, come è stata educata lei a sua volta grazie alla nonna. Quindi che si ottiene molto di più in questo modo, lasciando i bambini liberi, e poi il metodo steiniano e montessoriano. E il miracolo dei miracoli è che quando Clara la va poi a trovare in montagna, va a passare le vacanze da lei, Clara impara a camminare, mentre era sempre stata in sedia a rotelle prima. Grazie a Heidi, impara a camminare, quindi si rendono conto che la bambina non aveva mai camminato perché non era mai stata motivata a farlo. Quando, cioè, conoscete la storia, no? Quando a un certo punto Peter dà un calcio alla carrozzella, la butta giù dal dirupo e Clara si trova che non ha più la carrozzella, all'inizio l'aiutano a camminare, poi la bambina si rende conto che Heidi e Peter sono stanchi e dice, stai in piedi da sole, e al papà dice, papà, io dovevo camminare, dovevo farlo, come dire, prima non avevo nessuna motivazione a Francoforte con la rottamaia in quel brutto ambiente, adesso qua dovevo, ne valeva la pena. Quindi, caspita, che signor insegnamento sotto forma di una storiellina per bambini. Chissà quante volte sono successi dei miracoli che in realtà non erano né più né meno che questo, cioè la capacità di toccare davvero la corda della motivazione di un essere umano per fargli fare qualche cosa. Torniamo un attimo a Luisa May Alcott, che nasce 5 anni dopo la Spiri, quindi più o meno sono contemporanee, più o meno lo stesso tipo di famiglia, lo stesso tipo di educazione, lo stesso tipo di percorso, anche se l'Alcott comincia a scrivere molto prima, perché diversamente dal padre di Johanna Spiri, che manteneva la famiglia dignitosamente, il padre dell'Alcott, Bronson Alcott, che anche lui si mette dentro in un movimento spiritualista, vegetariano, spiritualista vegetariano, chiamiamolo così, in realtà è un fallimento dal punto di vista del denaro, quindi non riesce a mantenere la famiglia. Quindi Luisa comincia a scrivere molto presto, ma perché doveva aiutare la famiglia. Quindi la mamma, ecco, per Luisa anche lei muore abbastanza avanti nell'età, 56 anni, è fatto abbastanza insolito, non è longeva come le altre, però comunque anche 56 anni era una buona età in quell'epoca. La madre era una suffragetta e lei stessa diventa una suffragetta e un abolizionista. Gli abolizionisti sono quelli che vogliono abolire la schiavitù dei neri. È la seconda delle quattro sorelle, esattamente come Josephine March, delle quattro. Lei, cioè, quello che racconta delle piccole donne è la storia della sua casa, della sua famiglia, quello che vede lei. La mamma delle ragazze March è sua madre, uguale. Negli ultimi due volumi, Piccoli uomini e figli di Joe, praticamente la grande casa della zia March diventa una scuola di tipo montessoriano, dove la coppia, dove Joe March e suo marito, il professor, come si chiama? Joe forse? No. Lawrence era esatto. Schieramente il professor, cioè non è tedesco perché era tedesco, vabbè, niente, il Bauer, trasformano questa enorme casa in una scuola per bambini dove sono messe anche le bambine, dove accolgono anche orfani, bambini di strada che vengono sovvenzionati dai Lawrence, non le nipote, che sono gli amici ricchi. Poi ovviamente Teddy Theodore Lawrence diventa il marito dell'ultima sorella e continua a sovvenzionare, quindi una sorta di filantropia benevola. Accolgono questi bambini, ma non si limitano ad insegnargli a leggere, a scrivere, a fare conto, a dare scuola. Bauer, il professor Bauer, sì. Gli danno anche, interessante questo perché c'è proprio uno dei capitoli dei piccoli uomini che lo racconta, i poderi, cioè tutta la terra che c'è intorno alla casa viene divisa in piccoli lotti, ciascun lotto viene assegnato a un bambino, i bambini sono piccoli, partono dai 7-8 anni, alcuni ne hanno più o meno, alcuni hanno 4 anni, e viene deciso tutti insieme ciascun bambino che cosa deve piantare nel suo orticello. Quindi fin da piccoli, questo lo troveremo, forse Gabriella Mistral non ce l'abbiamo in programma, però Gabriella Mistral diceva la stessa cosa, i bambini devono vivere a contatto della natura, non possono essere istruiti dentro nelle aule, devono essere istruiti fuori nella montagna, nel campo, devono apprendere le erbe, perché altrimenti non avranno mai le radici nella loro terra. Quindi stabiliscono tutti insieme, i bambini decidono chi vuole piantare le fave, chi i piselli, chi i cavolfiori, chi vuole seminare il grano, sono proprio i bambini e fanno una sorta di grande riunione, anche questo se volete ve lo potete ascoltare sul canale, e ogni bambino decide cosa vuole coltivare e dopo lo deve fare, perché se non lo fa non viene punito, non esistono le punizioni. Però rimane comunque il fatto che la sua verdura mancava dalla zuppa che viene fatta a fine anno, no? Inoltre il professor Bauer e sua moglie Josephine trovano una maniera meravigliosa per punire, tra virgolette, i bambini, ed è cioè che si autoinfliggono loro la punizione. Cioè a un certo punto c'è un ragazzo che ne combina una grossa, adesso non ricordo esattamente, e Joe a un certo punto gli dice adesso tu prendi questa, dice adesso che cosa mi fai? Mi picchi? No, io non ti picchio, tu picchi, mi prendi questa verga e me la picchi sulle mani. E ogni volta che ti comporterai male tu mi picchierai fino a che non avrai imparato che ogni cosa che tu fai male fa male a me. Sosto questo ragazzino non la vuole picchiare, si mette a piangere, quindi no, da quel momento lì non si comporta mai più male, perché solo l'idea, no? Cioè è molto più punitivo questo che non la punizione diretta. È geniale ed è secondo me molto all'avanguardia anche questo sistema, no? Di educare ma senza fare del male. La comunità spirituale in cui lei cresce, ecco, il padre Bronson Alcott era un pedagogista trascendentalista itinerante che insegnava nelle comunità utopiste e che credeva che i bambini dovessero essere liberi di valorizzare l'intuizione e l'impegno innovativo a diventare ciò che si è destinati ad essere. Ritorniamo sempre allo stesso discorso. Aveva una visione mistica che applicava alla natura nelle scuole delle varie comunità, cioè si spostavano, lui andava nelle varie comunità a portare l'insegnamento, vi istituì norme di carattere ecologico con una dieta vegetariana e solo l'acqua come bevanda per tutti i membri delle comunità, adulti e bambini. I beni venivano messi in comune e la natura con le sue corrispondenze simboliche doveva essere oggetto di contemplazione mistica. Quindi sicuramente una comunità potrebbe essere un ashram, quello che noi oggi definiamo un ashram. Ovviamente per quei tempi era decisamente troppo all'avanguardia, infatti fame. Bronson non riesce a mantenere la famiglia. Che cosa succede? Succede che la mamma, da molte, cioè la mamma di Luisa e tutte le sorelle si danno da fare per aiutare come possono, facendo anche lavori modesti rispetto al livello culturale che hanno, quindi cuciono, fanno i mestieri nelle famiglie abbienti, portano i pacchi, fanno le fattorine, lavano, stirano, e la madre insegna loro che nessun lavoro è disdicevole, che qualunque lavoro può essere mobilitante se aiuta la comunità, il concetto di servizio che poi vedremo in Gandhi, per esempio, no? Qualunque lavoro è buono se è a servizio della comunità. Luisa era la ribelle di famiglia e ben presto si accorge che scrivere le rende di più che tutti gli altri mestieri. Era una ragazza indipendente e determinata. Anche lei vive in un ambiente in cui i bambini sono abituati ad essere presi in considerazione e ascoltati. Ecco perché tutte queste donne scrivono parlando di bambini, perché sanno benissimo che se i bambini vengono presi in considerazione e aiutati fin da piccoli, diventano degli esseri, quello che prima George Sand dice, puoi fare un bambino ma non puoi fare un uomo, no? C'è una bella differenza tra un mammifero e un essere umano risvegliato con tutte le sue facoltà. E non devono essere bloccati o costretti a prendere i modelli degli adulti, questo anche poi verrà preso da Montessori, quando dice che i bambini devono avere i banchi ad altezza bambini, le lavagne ad altezza bambini, cioè non possono essere costretti ad imparare i modelli degli adulti, i bambini sono bambini, punto. A me mi fa specie. Vabbè, questo è un altro discorso che faccio. Ecco, lei fu ispiratrice di Harry James, per esempio, Harry James, ritratto di signora, The Golden Ball, il calice dorato. Harry James è considerato uno dei più grandi scrittori americani, si ispirò all'Alcott e in questa gruppo di trascendentalisti itineranti che era stato creato da un certo Ralph Waldo Emerson, non so se l'avete mai sentito nominare, io no, però l'ho studiato. C'era, oltre a Harry James e a Bronson Alcott al padre, c'era anche Thoreau, questo sicuramente lo avete sentito nominare, e Hawthorne, Nathaniel Hawthorne, quello della lettera scarlatta. questo movimento esaltava contro il materialismo che si andava facendo avanti, perché era l'inizio della rivoluzione industriale, quindi della produzione di oggetti in serie, della divisione tra tutto ciò che era spirituale apparteneva alla Chiesa, tutto ciò che era la scienza, lì che è iniziata la divisione tra scienza e fede, che ci ha portato poi a dove siamo oggi, no? Che si vive totalmente nella divisione. Loro, questo movimento contro il materialismo, esaltava la forza morale, e contro il positivismo, il positivismo sia cercare il cercare una spiegazione razionale, scientifica, sempre a qualunque costo, anche dove non c'è, loro valorizzavano l'interiorità, la coscienza religiosa, dove però per religiosa non si intende religione, ma religiosità. Non erano cattolici questi signori qua, avevano una loro religiosità molto più vicina alla spiritualità pagana, io credo. Quindi una spiritualità naturalistica e una visione armonica dell'universo naturale. Lui, dunque, dov'è? La mamma. Ecco, a 25 anni Luisa, che non riesce a trovare lavoro, un lavoro confacente, non dimentichiamoci che era la ribelle di famiglia, quindi faceva lavori domestici faticosi insieme alla mamma, che insegnava a loro questo senso di sorellanza, questo senso di dignità, ma Luisa non era contenta di questo, perché voleva far meglio, guadagnare di più, un po' come la Giovarci, no? Che non si accontenta, quindi medita il suicidio a 25 anni. E che cosa succede? Che le capita la biografia di Charlotte Bronte in mano, quella scritta da Elizabeth Gaskell, che abbiamo visto la volta scorsa. Charlotte era morta da 2 anni, quindi vedete come si incrociano le storie di tutte queste, riuscite a percepire, io le vedo chiaramente le radici sottoterra che si stanno ricreando, cioè tutte queste donne sono in qualche modo collegate tra di loro, ma non collegate a livello ideologico, collegate perché ciascuna aveva, nel momento del bisogno, aveva in mano il libro di quell'altro che aveva passato le stesse cose, non la Bibbia o il Vangelo, ma il libro della biografia di quell'altra donna che dall'altra parte dell'oceano aveva passato gli stessi momentacci, era uscita perché c'era stata un'altra donna prima che aveva lasciato un'eredità. Io sto vedendo le radici del nostro albero matrilineare che si stanno, solo perché adesso lo stiamo vedendo, lo stiamo portando alla luce, lo stiamo facendo in maniera sacra, qualcosa che prima non era mai stato messo in evidenza, se non in modo discontinuo, non sistematico. Fa l'infermiera durante la guerra civile e questo le cambia profondamente il suo modo di vedere, quindi anche lei passa attraverso la sofferenza. Lei, non come la Spiri, non ha dovuto perdere il marito e il figlio perché non si sposò mai, però comunque ci furono le traversie familiari e quello che lei vide come infermiera di guerra le cambiò completamente la vita. Le piccole donne nascono quasi per caso perché il suo editore le chiede di scrivere un romanzo per fanciulli. E lei all'inizio non è contenta di questa cosa, preferiva scrivere delle cose dark con uno pseudonimo maschile, anche lei, però il suo editore insiste e lei che cosa fa? Scrive la storia della sua famiglia e in effetti poi ottiene un incredibile successo. Ecco, questo lo prendo paro paro da una, non mi ricordo se l'ho preso dall'Enciclopedia delle Donne, però da qualche altra parte, però è interessante. Il contesto autobiografico alicottiano, come dobbiamo leggerlo, come una vicenda di donne che si sostengono reciprocamente e non come un percorso di donne che imparano a servire gli uomini. Ecco perché non è un romanzo per fanciulle, per niente, ma è un libro per donne e di donne emancipate. Si tratta di uno scorcio interamente personale della vita di Luisa, focalizzato su un circolo di solidarietà e di autonomia femminile ottocentesca di stampo progressista. Questo è importante. Una lettura molto diversa del lavoro dell'Alcott. La sisterhood, la sorellanza, parola che in italiano non esisteva, l'abbiamo coniata noi adesso, è allenata dal realismo educativo della madre, della mamma di Luisa, che poi è la mamma Alco, della mamma March, la mamma delle quattro sorelle March, è allenata a cosa? Al gioco di squadra e all'etica del lavoro. Gandhi. Come valore aveva la crescita formativa e l'autoaffermazione femminile, cioè lavorare ti dà l'emancipazione e l'indipendenza, anche se cuci, anche se fai i mestieri di casa, non c'è, non c'è un lavoro migliore o uno peggiore, qualunque lavoro va bene, dipende da come tu lo fai. La madre di Luisa si chiamava Abigail, impiegò se stessa e le figlie in lavori socialmente utili, attenzione, come i corsi di alfabetizzazione per i neri. Wow! Meraviglioso questo! Sì. Tenuti da lei e dalle due figlie maggiori, ovviamente gratis. Siamo in buona compagnia, perché chiaramente i neri non potevano pagare, però mi sembra straordinario questa roba. Decisamente. Sì, sì. Cioè, sarebbe bello che ce le insegnassero nelle scuole queste cose, no? Sì, assolutamente. Ma... è esattamente questo spirito di solidarietà, nel segno del realismo educativo, che Luisa registra anche nei suoi successivi romanzi pedagogici, cioè I piccoli uomini e i figli di Gio, che non sono quasi stati considerati, perché qui noi quando parliamo di piccole donne arriviamo fino al matrimonio di Eni e basta. Questo è fino alla metà delle piccole donne crescono, poi c'è tutta la seconda parte, che ovviamente viene tenuta il più possibile all'oscuro perché non interessa a nessuno investire nella cultura dei bambini, no? È molto meglio continuare a mandare i bambini in luoghi dove imparano la competizione, la violenza, dove mangiano porcherie, è chiaro, perché su quello si mantiene in piedi tutto il sistema. Quindi successivi romanzi pedagogici dove i confini tra famiglia e scuola si attenuano. Perché? Perché i bambini vivono nella grande casa dove viene creata questa scuola insieme a Joe e al professor Bauer, suo marito. Non è che vanno a casa la sera, vivono tutti insieme lì e sono felici di vivere lì. La stessa Joe e il marito e i loro due figli vivono insieme a tutti gli altri bambini. I loro due figli dormono nel dormitorio con gli altri bambini. Non ci sono separazioni. E bambine, chiaramente, perché c'è anche la figlia della Meg, della sorella maggiore, non mi ricordo come si chiama la bambinetta che vuole fare il dottore, che poi alla fine riesce a fare il dottore, tra l'altro. C'è sempre una bambinetta trasgressiva, non mi ricordo esattamente. Nanni? Non mi ricordo il nome esattamente. Quindi si attenuano i confini per introdurre una comunità guidata da una coppia di insegnanti, quindi non soltanto dall'uomo ma anche dalla donna, dalla moglie, dove l'uomo ascolta la moglie, la valorizza, la sostiene, sono a pari livello. Una coppia di insegnanti che opera in un perfetto contesto di atmosfera domestica e formativa. Quindi a questi bambini viene insegnato prima di tutto a essere esseri umani. Tra le piccole donne, ecco, questa è una cosa interessante, tra le piccole donne, che viene scritto nel 68, e i figli di Joe, che viene scritto nell'86, passa un ventennio. In questo ventennio Luisa si forma, cioè lei cresce attraverso la scrittura e si forma. Quello che lei scrive nei figli di Joe non avrebbe potuto scriverlo subito, ci doveva arrivare. Se voi leggete i quattro libri o se li ascoltate in forma di audiolibri, vi rendete conto dell'enorme differenza che c'è tra le piccole donne e i figli di Joe a livello proprio di maturità, di scrittura, di contenuti. Perché anche lei è lo stesso, cioè i libri che lei scriveva per denaro sono una cosa, è come se, adesso mi sta venendo in mente, è come se nella vita di tutte queste donne ci fosse stato un libro che era il loro percorso spirituale di risveglio, fatto attraverso la scrittura, che nella vita di George Sand è stata la sua autobiografia, o Lenny anche, il primo libro che lei ha scritto. Nella vita di Johanna Cimiri, con tutto che ha scritto anche lei un sacco di libri, è stato Heidi, con il quale lei ha creato il suo sistema didattico e lei stessa è cresciuta. E nella vita dell'Alcott è lo stesso, viene per via, caspita, sono le 7:10. Non facciamo in tempo a vedere le artiste neanche stavolta, ragazzi, perdonate. Io parlo troppo, dovete fermare. Va bene. Simone de Beauvoir dichiarò nelle sue memorie che la sua vita sarebbe stata diversa se non avesse letto Joe March. Che è stata una prefigurazione del suo avatar, cioè della sua reincarnazione. Questo sono proprio parole sue. Io poi avevo preparato una... Non so, ditemi voi. Abbiamo ancora 20 minuti, credo. Vogliamo fare... avete guardato i video di Suzanne Baladon e di Camille Claudel? No, non ricordo. Allora, facciamo... Niente, o li rimandiamo alla prossima volta e adesso parlate voi, perché rimangono solo 20 minuti. Parlate voi adesso, poi se avanza un po' di tempo, magari trattiamo Camille o trattiamo Susanna e Camilla, rimandiamo la prossima volta. Perché altrimenti davvero non era questo che io avevo in mente. No, forza, è bello. Sì, abbiamo comunque interagito, però vorrei che mi deste adesso il vostro contributo. Io non sono riuscita a leggere niente, ho iniziato a leggere La città nera di George Sand, ma volevo pochissimo proprio, per cui non... Perché ovviamente nel nostro lavoro, lo sa anche Sara, l'ultimo mese è terribile e non sono riuscita a fare niente. Vabbè, niente. Tu? Ok, allora, un po'. Io prometto che non conosco molto George Sand, prima di intraprendere il percorso della scuola delle donne, ed è stata una bellissima scoperta. Ho letto La Prole, ma ho scelto il libro in realtà senza alcun criterio, perché non conoscendo l'autrice avendo già scritto una vagonata di libri. Che è strano, guarda il caso che ti è capitato giusto il libro che avevo scelto io di mettere, ma guarda, se non ci stanno pilotando. Il caso. Comunque, devo dire che ho trovato questo libro come una boccata d'aria fresca dopo le bronze. Perché sono uscita proprio da questo clima così cupo, eccetera. Poi è un altro stile. Completamente. E anche il fatto che qui non ci sono dei veri protagonisti all'interno di questo libro, perché in realtà è un po' come se tutti si muovessero per creare la storia, e anche se alcuni, come i gemelli, hanno più spazio di altri, in realtà, o anche Faretto ha più spazio rispetto ad altri, in realtà sono comunque tutti importanti, perché anche attraverso altri personaggi George Sand riesce a farci capire qualcosa di più di uno di loro. Li ho trovati profondamente intrecciati l'uno insieme all'altro, anche a livello psicologico proprio e caratteriale. Posso fotografare la copertina, perché adesso ho più tempo, lo voglio leggere anch'io. Il personaggio di Fadette è stupendo proprio perché lei è davvero libera. Lei con il suo carattere così esuberante, con tutto quello che trasmette all'esterno, in realtà cela una ricchezza d'anima incredibile, e quando arriva il momento in cui Fader si apre, si scopre che ha quasi di Pandora. Sì. Potente la bambina. Sì, è proprio lì, nella sua forza, nel suo autoesilio, eccetera, che sono riuscita a scorgere, credo, tutta la forza anche dell'autrice, perché mi sembra che sia proprio lì che lei vada a mettere quello che è stato il suo vissuto. E, invece poi ho letto I giardini in Italia, che... Lei ha viaggiato tanto in Italia, sì, e lei si è concentrata proprio sui giardini, perché alcuni, come ad esempio il parco dei mostri di Bomarzo, di cui c'è anche un'illustrazione fatta da suo figlio, la colpiscono molto per i giardini italiani, per il loro essere al contempo eccessivi, grotteschi, ma anche ricchi e tutto sommato piacevoli, anche se parecchio bizzarri, perché lei in realtà va proprio a cogliere quelli che sono un po' più particolari, ma soprattutto per il disegno della... Caspita! Sì, vediamo. E fa un'analisi molto interessante, molto lucida, sì, ma sono bellissimi proprio i disegni che fa il figlio che... Maurice. I disegni che fa Maurice per questo brevissimo libro sono molto... E qui si nota proprio il suo spirito di osservazione e la sua capacità critica. Poi mi aspettavo di trovare Mary Wollstonecraft, non so perché, forse me l'ero sognato. No, l'avevi indicata tra le letture anche Mary Wollstonecraft. Ah, ok. Sì. infatti l'ho letto anch'io. Io conosco i diritti delle donne, sì. Sì. Ma era tra le quelli che dovevamo trattare oggi? Sì. Mi sembrava, ma non sì. Cioè, avevi postato una serie di informazioni, c'erano anche le Le Wolf. Male che me la sono dimenticata, se no la recuperiamo comunque. Avevo anche Mary Shelley. Che andavano proprio fatti insieme, le Wollstonecraft, madre e figlia, quindi sì. Io Mary Shelley in realtà già, essendo io comunque una che viene dalla letteratura gotica, eccetera, e tutta la storia di Mary Shelley. Passate tu. Sì, abbiamo avuto tutta quella fase. E la storia di Mary Shelley la conoscevo bene, la sua storia d'amore, tutte le sue collaborazioni, il fatto che comunque lei insieme a Lord Byron, Polidori, Percy Shelley, eccetera, dare vita a tutto questo mondo fantastico. E quindi non me la sono ritirata dietro. Con Frankenstein. Ma lì hai dei diritti delle donne? Sui diritti delle donne, in realtà è un estratto dei diritti delle donne, che invece vale in formato integrale. Io comunque ho trovato molto, molto interessante anche questa piccola parte, peraltro ignoravo che ci fosse un libro più grosso di questo. L'ho scoperto confrontandomi con Valentina. Quindi io te lo presto volentieri. Sì, perché non sono riuscita a trovarlo, e quello che ho letto l'ho letto su internet. Se vuoi io te lo scontro. Credo che non ce la faccio a leggere per la prossima volta, però questo qui ti ringrazio, perché tanto la Wollstonecraft la recuperiamo sicuramente. E io credo che in 8 lezioni fare tutta sta roba dobbiamo ritrovarci l'anno prossimo. Sì. A volentieri. Penso che nessuno arriva. Per andare avanti, troppa roba. Grazie. A voi. Allora, io devo dire che ti ho ascoltata molto, ho scoperto il tuo libro e l'ho trovato estremamente comodo, anche sì. Perché io non sono stata in passato, ma non riesco più a recuperare questa passione della lettura. Per cui, per esempio, mi sono ascoltata La piccola fadetta, sono partita anche da quella. L'ho ascoltata tra l'altro in un giorno in cui ho fatto la pubblicità di primavera in casa e c'avevo questo cellulare. Beh, quella piccola fadetta che mi sembra. Esatto, bravo. Questo è esattamente quello che avevo in mente quando ho creato la scuola. Esatto. Sì, no, cioè facevo da mangiare ascoltando la piccola fadetta. Sì, io metto il telefono nel grembiule. Sì, insieme allo straccio della polvere, così me lo, perché anche io mi ascolto poi conferenze, mi capita di cercare materiale, ascoltare conferenze e mi metto il cellulare. Nella tasca del grembiule, non ho pensato, perché infatti anch'io non scuro adesso. L'ho trovato molto bello come libro, soprattutto per la parte insomma sciamanica, diciamo che viene inserita con, secondo me, molta leggerezza, cioè proprio questa stregoneria, però vista nelle cose semplici. Sì. Infatti l'ho trovata estremamente leggera, appunto, dopo magari i precedenti, diciamo. Ho ascoltato la storia della vita, mi è piaciuta molto, ho trovato degli spunti molto interessanti, tra cui uno, soprattutto lei parla del rapporto con sua madre, che mi è piaciuto molto, la parte iniziale mi sembra, tra l'altro. E dice una cosa, non credo di averla trascritta letteralmente, ma comunque dice, perché sua madre ha sempre avuto un rapporto molto conflittuale con sua madre. Cosa che ho avuto anch'io. E quindi le dice, non amare se conclude su questa cosa, su sua madre, non amare se stessa non ci permette di amare altre donne. Se non amiamo noi stesse, non riusciremo ad amare altre donne. Non l'avevo notato. Non so se lo dice in testuali parole o è una mia confusione rispetto a, perché poi stavo ascoltando, ho preso dei punti, mentre circolazione. Ed è una cosa secondo me molto vera, che mi rispecchia molto e che rispecchia secondo me il rapporto delle donne con le donne. Quindi ho trovato molto interessante questa, in generale, l'ascolto la storia della vita di George Sand, perché appunto inserisce davvero tantissime sue elucubrazioni sulla sua visione della vita alla fine. Che altro? Su di lei, forse. Ah no, ho letto questa, non tutto in realtà, Laura, Viaggio nel cristallo, che ho scoperto di essere stato pubblicato praticamente contemporaneamente a Viaggio al centro della Terra di Jules Verne, però ovviamente è stato completamente coperto da... Però mi piace di George Sand? Sì. Ho trovato un mercatino dell'usato. E quindi l'ho scelto. Avevo provato a leggere Valentin, ma solo per ego. Tu che valga la pena di cercare Lelia. Perché secondo me Indiana e Lelia, i primi due che ha scritto, sono quelli più dirompenti proprio a livello di messaggio femminista. Lelia credo che meriti, però io finora non l'ho trovato, non ho guardato in biblioteca, andrò a vedere se lo trovo. Sì, sì. Biblioteca sicuramente lo trovi anche perché col sistema di bibliotecario lo fanno arrivare. Ah, ecco. Sì, sì, c'è il prestito tra biblioteche. Poi, ecco, avendo poi letto anche, ascoltato la storia, avevi anche stato pubblicato, mi sembra, un estratto di Atenate su Mary Wollstonecraft e la figlia. Sì. Ecco. Quindi faccio anche un po' confusione. Del mio libro, Visione. Sì, esatto, perché ce l'ho il libro, però non l'ho ancora letto e ho scordato un attimo, mentre andavo in mi sembra che fosse lei, comunque mi aveva colpito molto il discorso sul divorzio, su tutta questa cosa di quanto era difficile la gestione proprio dei figli. Cioè, comunque l'ho trovata una donna estremamente forte, estremamente ispirata, libera comunque, l'ho trovata proprio libera. E, ho letto un pezzo, non tutto, I diritti delle donne. Cioè, tra l'altro sono partita pensando perché avevo visto il suo libro, ho detto, ah, beh, mi faccio, lo leggo in due ore, poi non finiva più. E infatti mi ero letta già 160 pagine, perché io l'avevo iniziato dall'ebook pensando di leggere quello, poi mia mamma mi ha passato il libro e ho detto, Aspetta, tu hai una mamma che possiede quel libro nella sua vita? Sì, mia mamma è una femminista. Ah, sì. Portacela, cavolo! Però è una di quelle femministe che non riesce a capire il lato spirituale. Soprattutto è rimasta scottata un po' da un cerchio a cui aveva partecipato quando mi ero appena ammalata. E è convinta che si pianga sempre tutto il tempo nei cerchi. Quindi sto cercando di smontarla questa cosa. Comunque ho letto quella parte che ho letto e mi è servita come tassello molto importante per capire una cosa che io non sono mai riuscita ad accettare di me stessa, che è il fisico, nel senso che io fisicamente sono una donna con due spalle belle larghe, sono molto alta, sei anche bella, diciamo. Sì, ma non devi pagare, ma certo, questa non è beccatela. Senza nessuna idea di porterti a letto, no. Te lo dico. E mi ha permesso di capire anche il merito quando parlavi tu della consunzione, no? A cui erano assoggettate le donne, ma si auto-infliggevano. Secondo me, poi quando entra nella tua mentalità, fai questo ragionamento. Che rinunci per i maschi. Esatto. E comunque l'idea è proprio il sesso debole, no? Cioè metterci in questa posizione, lei ne parla molto, molto in questo libro, parla proprio tanto, o almeno è stata la mia impressione, di questa cosa di noi donne che alla fine nei secoli siamo talmente state messe come sesso debole che non ci siamo indebolite, non potevamo fare attività fisica, non potevamo fare, cioè noi ci vivevamo dentro casa facendo l'uncinetto e se andava bene potevamo dipingere. Questo era. Quindi cioè, mi sono proprio domandata quanto siamo effettivamente più deboli degli uomini e quanto in realtà ci siamo evoluti un po' più deboli, perché caspita, cioè nell'evoluzione se tu selezioni così, selezioni negativo. In molti casi è l'animale femmina che va a caccia e caccia anche per il maschio. Esatto. E non è affatto più debole. E quindi io mi sono ritrovata a cercare di invertire questa vergogna che ho sempre subito da parte di me stessa, in realtà, non da parte degli altri, di essere comunque ritenuta una donna molto forte, anche fisicamente, che poi era una cosa di forza anche nello spirito. E ho proprio fatto, cioè mi sono spiegata il fatto che forse dovrei semplicemente essere fiera di questa cosa, di essere una di quelle donne che porta questa forza, certo, e che la trasmette. Tant'è che tante la manifesta all'esterno, esatto, perché si vede. Tant'è che molte volte mi è capitato relazioni di amicizia con altre donne, che venissi presa come sostituto di un uomo. Nel senso che magari le portavo in giro in macchina, magari... portavi la valigia, i pacchi. Non sono mai stata quella forza fisica, perché sono sempre stata abbastanza fiacchetta dal punto di vista delle braccia. Però proprio essendo una figura comunque più grande fisicamente di altre donne, venivo presa come quel riferimento lì, no? Sostituita. E questo mi ha fatto sentire molto poco donna, in realtà. Bene, andava così. Quindi io sono molto brava. Pensi anche al fatto di avere scherzato il padre, per esempio. Diciamo che stiamo registrando. Come ci parlo. Abbiamo solo più 3 minuti. Esatto. Grazie. Ho finito, grazie. Io passo da allora, perché sono state così brave loro che io direi va bene così. No, caspita, mi dispiace. No, davvero, davvero. Peraltro io non sono riuscita anch'io a prepararmi chissà come bene, quindi abbastanza frammentare, perché ho dovuto preparare un'altra donna, una testitrice, abbiamo fatto una mostra dedicata a questa Maria Lai, che non so se conoscete, ve ne parlerò. È stata una grandissima donna, una tessitura. Prossima volta ce ne parlerò di Maria Lai, che è anche lei una tessitrice, scrittrice sarda, morta nel 2011, un personaggio anche lei, sì, dirompente, non conosciuta, si espressa nell'arte tessile. E quindi vi porterò, cioè una visionaria, è una donna grandissima, per cui anch'io non è che fossi particolarmente sul pezzo sto giro. Vabbè, così. Allora, la prossima volta partiamo dalle pittrici, perché altrimenti continuiamo a portarci, la prossima volta partiamo con Camille Claudel e con Susan Baladon, e parleremo poi di Virginia Woolf, e direi che poi recupereremo Mary Wollstonecraft, forse un pochino, vediamo, però ci concentriamo un pochino di più sulle pittrici, perché altrimenti no, adesso facciamo la nostra non abbiamo finito, sì, certo. Non riusciamo a fare solo la meditazione, però abbiamo fatto quella dell'uovo che sta bellissima. Sai che io volevo comunque convocare George Sand qua, mezz'ora noi lo facciamo velocemente, la visualizziamo con tutti i suoi ricci neri, con le sue enormi teste di capelli, con la sua fierezza, con la sua libertà, con la sua intraprendenza, con la sua incredibile intelligenza e lucidità. Lasciamo entrare in questo cerchio e chiediamo di sedere con noi nel cerchio delle donne, nel cerchio delle antenate, di ispirarci, di lasciarci il suo messaggio adesso in questo momento. Una parola che sia per ciascuno di noi. E visto che sta uscendo di San Cinesca di là, ringraziamo Giorgio, ringraziamo Johanna, Luisa, le grandi maestre, onoriamo il loro cammino, riconosciamo la loro presenza. Dello spazio-tempo, nella spirale eterna dell'eterno ritorno, sempre si rigenera, sempre riporta il messaggio. La parola che George mi ha donato è tenacia. A me fierezza. A me rilassatezza. Forza. A me fiume. Bene, grazie sorelle. Alla prossima volta. Ma poi le cose mi rimangono come devono andare. Sì, ma non riesco a finire il programma. Cioè, vola.